Chi è avanti? Beh, matto giù. Oh, stavo qua. E beh, adesso acceso. 2 minuti contate, io urgio. No, io ero nascosto, stavo guardando. Hai visto, ci è toccato l'Ajax? Era convinto che era Furio. Sì, l'Ajax si è toccato. Sì, vabbè, è stato uno con l'altro lui. Adesso, a questo punto, sono tutti forti sono. Dunque bisogna giocare sempre al massimo. Per cui, se è solo svegliare, è ora di svegliarsi veramente. Perché l'Ajax secondo te cos'è, forte? Una squadra che viaggia, vista giocare, però non è che sia un granché. Ha buttato fuori il Real Madrid, e niente di male. Ah, è vero, e ha vinto contro il Real Madrid, mamma li durchi. Appunto, solo che, magari sono contento che la partita del ritorno è a Torino, prima si gioca in Olanda e dopo si gioca a Torino, questo è già un qualcosa di importante. Perché secondo te cosa cambia? Cambia che se disgraziatamente dovesse andare male lì in Olanda, c'è la possibilità con la spinta del pubblico a Torino e un'altra musica. Ah, ecco, come è successo con l'Atletico, che ha rimontato i 2 gol. Beh certo, è importante. Fattore campo è molto importante, perché uno è avere 500-600 persone, 1000 persone al seguito, fare tipo, ma no, che quelli che ti devono confrontare magari con 50.000 persone, invece sono loro ad avere meno tifosi, a Torino è tutta un'altra musica. Proprio vero, adesso inizia il balletto, adesso si inizia a ballare, perché tutte le squadre sono forti, ho visto quelle che sono qualificate, sono fortissime, ho visto l'Inter, ma come si fa, ho visto l'Inter ieri, andata all'8, canale 8, cioè non si è riuscito a rimontare un gol, a vincere 2-0 in casa. Carità di Dio. No, ma a vincere non solo la squadra, è cominciando dalla società all'allenatore ai giocatori, sono una squadra di pagliacci, di buffoni, per cui comunque sono contento, loro buffano contro la Juve e io buffo contro l'Inter, per cui fa benissimo così, sono contentissimo, guarda, per il sette con la squadra italiana, però sono contento che l'hanno buttata fuori. Anche il Napoli esce fuori, gli è toccato l'Arsenal. Su sarei da Biglia, l'andata e il ritorno. Anche l'Arsenal è una squadra da tenere. Oh, guarda che anche il Barcellona non si crede che hanno tanto da stare allegri con Manchester United. Quelli lo stesso sono avverbisti, per cui andiamoci piano, ancora non ha vinto il Barcellona, ancora non l'ha passato il turno. Franco, tu sì. Io ho sentito uno basso, non ho capito manco quello che ha detto. Tutto impastato, non so chi è. Sì, ma infatti non bisogna mai stare allegri, ciao Walter. Quando ti sentirò bene, me lo dici, io sto andando con un baracchino del 1970. È un Turner più 3. Con tutti i baracchini che vai non riesci a metterne uno, grazie a Dio. No, qua ho messo 27.000, va benissimo in S23, ma in HF, in 27 c'è male in HF, non so cosa dire, se trovo un altro microfono già avanti, provo con questi, la generale rating, se vanno bene, se ce l'ho in macchina, sto viaggiando. Ah, quello, ho capito, quello che si stacca al frontale, che sembra una sveglia, quello lì è vero? No, quello si stacca sempre il frontale, incominci 7.000, che c'è anche le VHF, le VHF. Ah, sì, sì, ho capito cosa. L'ho visto, l'ho visto. Va bene, va bene. Però la radio è brutta, bassa, tutta storpiata, brutta. Vabbè. Avanti, Giulio, lo saluto a Walter. Ok, ciao Walter. Infatti, prima non l'avevo riconosciuto perché era bassissimo. Ma adesso mi ha trovato un po' meglio. Va bene, Walter. Sei perdonato perché so che ne hai tantissime radio e puoi fare la differenza. E dunque non ci sono problemi. Riprendi, Walter. C'ho l'antenna della... degli cilindri. Sono l'antenna della 27, sono con la correttore. Quello di radio esce male. Se vado in FM va benissimo, quindi se si viva bene, in AM fa cagare. Lo so. Sono all'infuzia adesso. Infuzia sì. Adesso ti metto la portata. Ok, Walter, d'accordo, eh. Va bene, va bene. C'è un baracchino in macchina, poi tra l'altro che cosa non è che possiamo pretendere più di tanto. Già va bene, senza ascoltarti poi. Poi tu ne hai tanti, li stai facendo girare tutti i giorni e va bene così. Così almeno li provi e sai quali vanno bene e quelli che vanno male. Per cui va bene così. Dai Claudio. Gappa gappa, boh, mi sembra aver sentito qualcuno sotto che ti ha chiamato, vintage vintage, vada, non so, boh, mi è sembrato, eh. Boh, se non è Marco che... Ah, c'è un po' di attività, perché c'è un po' di mangiare. Buongiorno. Ho capito, vi fare il coso mondiale. C'è una cara, c'è il contest russo, bravo, il contest russo. Ah sì sì, me l'ha detto Stefano, sì. No, io il prossimo mese vado al coso di Marconi, capito? Non l'ho mai visto, vado su lì che ci sono i radioamatori di Olbia, mi hanno invitato, vado lì. Va bene, dai. Noi siamo qua sul 10, quando vuoi siamo qua. Vai Giulio. Ok. Va benissimo, Contex. Dovrò farne 40 metri, lo fanno il Contex, o qua. Tutte e cinque le bande, tutte e cinque le bande. Stasera abbiamo piazzato le beveri, filato lungo 300 metri. Va bene. Siamo dopo. Io mi sento bene comunque, mi sento bene. A me bene mi senti? Sì, benissimo. Vabbè, importante ci sentiamo. Ma hai piazzato i dipoli, le antenne lì da te? L'ho fatta lì a casa tua? Sì, è ovvio. Ho capito. Vabbè. Va bene, va bene. Io non lo so. Cerchiamo da qualche parte, vediamo. Avanti Giulio. Ok. Va benissimo Walter, ma casa tua posso, indiscreto sono se ti chiedo, ma giù, non qua nei punti, giù, dall'altra casa, giù. Sì, la facciamo da San Giovanni. Appunto, sì, beh, certo, va benissimo. Va bene, va bene. Quando sarebbe a proposito, mi è sfuggito quando è il giorno e la data anche ci sarà, e l'orario anche ci sarà, no? Sabato e domenica. Ah, sabato e domenica, la mattina della mattinata oppure in serata? Dalla mattina. Ah, ok, ho capito. E vabbè, allora già, ci abbi ascolto, guarda. Va benissimo. Avanti, Claudio. Gappa, va bene, io posso ascoltare e parlare, ma sicuramente non parlerò. Ho gappa anche fatto perché sabato e domenica io sono in campagna, quindi la radio non ce li ho lì. C'ho solo un base VU e basta. Infatti quando sono lì mi senti solo in PMS, a volte entro a salutare. Devo decidere a mettere un baracchino o qualcosa, adesso vediamo. Ok, qua, sempre certo. Ah, direi che domani mi sento subito un diplomi, così almeno sento anche meglio. Intanto mi sembra che ce l'ho anche pronto, se ricordo bene. Lo faccio altro che portarlo su per legarlo da capo all'altro e ciccia, quindi va bene. Va bene, Walter, ma sei già sceso o sei ancora lì? È già sceso, dai, qua. È già sceso dalla macchina, sicuramente. Capito qua, qua. Credo di averlo, credo di averlo. Così ascolto meglio, perché con questa antenna che hanno appresa non è che posso ascoltare molto, però ascoltare, attento, ma se arrivo a segnare parte magari non riesco a sentire. Invece se sento subito un dipolo, tanto domani è sabato. Per cui c'è tutto il tempo eventualmente di farlo anche, di costruirlo, ci metto poco a farlo là. Solo faccio uno di una decina di metri, 5, 6 di metri, di 20 metri, 10 per parte, e lo metto così ad angolo in orizzontale, a coso, dai, a 45 gradi, se va bene lo stesso, per ascoltare va più che bene. Noi volevamo andare stasera, però mio figlio oggi entra a lavoro a mezzanotte, esce alle 6 domani mattina, quindi ci rimaniamo qua, andiamo domani mattina, così lei dorme e la mamma prepara il pranzo, prepara tutto, capito? E quindi ce ne siamo lì, adesso vediamo. Ma già ne ho dei baracchini da mettere lì, solo che non ha giocato lui. Quando vado lì sto pensando a fare altro che baracchino. Beh certo, ci sono cose più importanti sicuramente, ma io già se avevo il tempo, problemi non ce ne sono. Quello al limite si può anche fare, ma se non mettiamo l'ascolto e si può anche fare, c'è da fare a casa, non è che ti devi impegnare a modulare, assolutamente no. Io intanto perché non posso, qui. Secondo perché non è il caso. E dunque posso ascoltare, al limite se avrei qualcosa da fare, se dovessi uscire qualcosa da fare, la posso fare ugualmente. Non ci sono problemi. Sì, ma infatti già si possono fare tante cose. La gana vivo. La voglia ci vuole, non vedo l'ora che si liberi Andrea. Massimiliano sta terminando, Andrea però sta finendo dei lavori a casa. Appena ha finito, un sabato mattina ci dedichiamo a smontare le antenne, ci le metto dentro le scatole e le porto in campagna. Lascio solo la mantova e basta, capito? Nel caso debba modulare, c'ho almeno la mantova fino a quando, anche stamattina, sono venuti, ma bevella, a Vaghi te devi domandare se le danno il mutuo. Il problema è sempre il mutuo. Io dico, ma se non hai garantie, che mutuo vuoi chiedere? Perché mi pare è nemmeno un anno che travaglia e c'ha un buon stipendio, però che mutuo vuoi chiedere? Ci vogliono garantie. Certo, e non sono garantie, ad esempio immobiliari, possedimenti, eccetera, ma addirittura devi avere anche un 25%, mi sembra, perché tutto non te lo finanzia la banca, assolutamente no. Devi avere anche un po' di soldi per poter appunto completare la cifra pure, perché la banca non ti finanzia tutto, assolutamente no. Non so che così, il 20% ci vuole, però quello non è un problema, capito? Se a me mancano 20.000 euro e me ne dà 100 subito, io la casa gliela do lo stesso. Si fa il compromesso, atto non gliene faccio, fino a quando non salda, capito? Posso anche aspettare, ma non è che ti posso andare a casa, mi dai il 20.000 euro e poi il resto, no, non esiste. Non so che usci molto di fame, no? Io l'ho pagata la casa con sudore della fronte, quindi se la vendo perché voglio riprendermi i miei soldi e investirli, se no non rimane dov'è, non me la futti nunca. Certo, ci mancherebbe altro, resta da così. Non è che devi fare il fatto bello fastidio, oppure stiamo parlando di una casa, non stiamo parlando di un invito a cena, c'è un grido. Ui, se non ci sono soldi non si canta messa, nemmeno un prete canta la messa se non ha i soldi lì, pagati in anticipo. Arrivo prima, arrivo pure un mese, e ti fanno appena di 40 euro, 50 euro. Se vuole un po' di 120.000 euro, ma pure soldi che vuole lui avere la casa da dove vedo, è tutto di forse di me. Un fenomeno non avvallo da parte di qualcuno che ha dei possedimenti. E poi lui deve avere, per completare, almeno 25% in contanti, perché se no non può aggiungere. Vabbè, tu hai ragione, se me ne ha già detto, non gli altri 20 li posso anche chiedere più in là, però se detto questi 20 devono anche arrivare, perché se uno si mette un debito di 100.000 euro e comincia a pagare 5, 6, 700, 800 euro al mese di mutuo, e poi quanto prende il stipendio questo, e quanto gli avanza? E il 20.000 quando se li dà? Io infatti gli rimane in occhio. No, beh, certo, c'è una garanzia, allora sì, non è che sto facendo io ho l'agenzia, quindi l'agenzia chiede garanzie, vuole garanzie, perciò se non ci sono garanzie non si canta messa. Il prete, hai detto, mi ricordo quando è morto fratello di mamma, 7-8 anni fa, sai che si fa la messa poi del mese, no? E mia zia ha fatto la messa, e rottore c'è questo, una parrocchia piccolina, una chiesa piccolina di quartiere, e l'ha dato 50 euro, tu dovete vedere la faccia che ha fatto il tuo preti, ci siamo accorti tutti come a dire, se solo 50 euro mi stai dando, e i preti se non le dai almeno 100 euro non te ne fanno rimessa a me. 50 euro l'ho chiesto di dicembre per la messa di mamma, l'anniversario, no? Fratello lì che lì al cuore immacolato, su, a volte lo sento alto, 50 euro l'avevo, però non ho fatto niente, non ho detto niente, ma malapena ha annunciato il nome, insieme ad un funerale che c'era, mi sembra, o un'altra messa, non si è spostato più di tanto, per carità, infatti lui, io sono sempre di quell'idea, sono usurai e basta. Io con i zelli ha fatto una faccia come a dire solo 50 euro perché mia zia già sta bene, mio zio era funzionario alla Telecom, prendeva una barca di soldi, era ispettore di zona, però le 50 euro aveva, 50 euro gli ha dato, ha fatto una faccia fea ma brutta, mica brutta, e vabbè, figlia di chi si gira per i bibili, infatti non dicono niente, fanno una messa normale, creano l'orario loro, dice sì, la facciamo alle 7 per dire con la funzione delle 7, e beh, uno ce la fai quando ti dico io, il giorno che per dire che è morto, la stessa ora eccetera, no, l'orario lo fanno loro, non fate di nulla, fa vedere di nulla. Niente, te lo sto dicendo, ha fatto il nome di mamma perché stava facendo un'altra messa e ci ha messo anche il nome di mamma in mezzo. Praticamente si ha preso 50 euro per aver detto solo il nome e cognome di mia madre, e poi basta, l'ho detto altro. Per cui si può immaginare, per carità. E poi hanno anche la faccia spudorata di passare in giro a chiedere l'offerta. Quelle nonnine che passano in giro a chiedere l'offerta. E ci sono gli imbecilli che gli danno anche l'offerta. Cosa ci vuoi fare? Purtroppo è così, prendiamoli come sono, anche i preti, sono quello che sono. Vabbè, qua ti stavo dicendo, un'altra cosa, non mi ricordo, ma non sentito nessuno, io sono le 6, non sento nessuno, a mezz'oretta che ero qua in stanza, stavo guardando un po' la televisione, e poi ho visto la tua portante e ti ho risposto. Ok, le 6 e 12 minuti sono. Le 6 e 12, sì. Ma io avevo sentito la voce bassa, ma infatti pensavo fosse Franco, in un primo momento, che stava provando qualcosa, invece era Valle, però poi hai preso il tuo, allora è Claudio, non è Valle, non è nessuno, è Claudio e basta. Andava entrerà, allora qualcuno entrerà, speriamo. Non ho più sentito piuttosto a Franco, Franco di Sorso. Prima non entrava quasi tutta la serie, adesso non l'ho sentito da un po' di giorni. No, quando è che l'ho sentito? L'ho sentito sul 20 da poco. Non mi ricordo se la settimana scorsa. Non mi ricordo. Vabbè, sai, anche lui era impegnato a fare altro. Poi ultimamente era fuori, in giro. È andato con la moglie a farsi un viaggio. Io viaggi non ne faccio, non mi piace essere mai girato, però te l'ho detto. Il 2 aprile vado a venire la Juve a Cagliari. E poi si vedrà, l'estate già me la passo tranquillamente, c'ho tutto quello che mi serve e quindi l'importante è che non faccia caldo, caldo, caldo, perché mi sembra che quest'anno il caldo ci ammazza. Le previsioni sarebbero quelle, che calda sempre di più, adesso vediamo cosa succede, e ci andiamo. Stavo pensando piuttosto che le 10 che gioca poi la Juve, no? È stato il 6 che è Milan, il problema è quello, il giorno 6 che è Milan, che dovrebbero, adesso vediamo che cosa succede, però no, perché mi piace sempre che mi piace anche con Milan, ma non so se fa turnover, che lo sa, non se lo può permettere di fare turnover se deve vincere il campionato, deve sacrificare i giocatori e basta, inutile come si adora girare i bibiricoli. Il Milan non è il Chievo e non è il Sorso, ok? Il Milan sta puntando al secondo posto, mi hanno preso, intanto lo derby lo vinci contro l'Inter, domenica sono belle partite, c'è 12:30 c'è la Juventus, Genoa-Juventus, alle 18 c'è il Napoli, Napoli-Udinese, e poi c'è il derby Milan a Milano, Milan-Inter, nello stadio del Milan, quindi grande domenica di calcio. Sì, è vero, ma stavolta mi sembra che c'è anche la Cagliari-Fiorentina, se non sbaglio, confermi? Sì, stanotte alle 8:30 c'è Cagliari-Fiorentina, quindi già da oggi, domani non mi interessano, domani sono squadre che non mi riguardano, però domenica tutta lì, da mezzogiorno e mezza, le 6, voglio vedere il Napoli con Giavasi, e poi alle 8:30 c'è il derby. E sono sicuro che il Milan stravince contro l'Inter, stravince. Certo, il Milan è in condizioni molto migliori dell'Inter, poi è in forma il Milan, forse una delle squadre più in forma al momento, per cui dovrebbe vincere, però il derby è sempre un derby, non si può mai dire, ma a volte anche la squadra che è meno in forma potrebbe strappare un pareggio, come addirittura potrebbe anche vincere, che lo sa, saremo a vedere. E va bene, cosa devo dire? Ma io stavo guardando anche poco fa, fino alle 4:30, qualcosa del genere, stavo guardando il ciclismo, la Tirreno Adriatica stanno facendo, hanno fatto la terza tappa, domani ci sarà la quarta, poi ci ha vinto un italiano, Viviani, su Molata, su Peter Sagan. Non mi attira molto il ciclismo, guardo molto GP, il calcio, mi piacciono molto il nuoto, pallavolo non mi interessa, pallacanestro così ogni tanto la guardo, niente di che. No, ieri all'8 hanno dato delle belle partite, l'Europa League la stanno dando lì, vabbè, già si vede anche quello e quindi le guardiamo lì. Però adesso, perché ho visto anche il 10, mi pare, 10 aprile c'è appunto Ajax Juventus, il 16 c'è il ritorno, quindi 6 giorni dopo, il 16 c'è il ritorno a Torino, e tutte così sono, il 9, il 10, l'11, il 13, tutte così giocano. Sì, adesso ci sono tutte partite ravvicinate, appunto a quello che stavo dicendo, il 4, no, il 6 c'è il Milan, il 10 poi c'è l'Ajax, e poi di nuovo lui, d'altronde siamo nella fase finale del campionato, stiamo parlando già di aprile, il campionato finisce a maggio, per cui è chiaro che sono tutte quante ravvicinate. Poi ci sarà anche la Coppa Italia, ma a noi la Coppa Italia non si tocca perché non ci siamo, per cui ci sarà anche quella. Vicini sono alla conclusione. Per il resto hanno fatto già 27 partite, la prossima sarà la 28esima, in tutto sono 38 se non sbaglio, e dunque quanto ne rimangono? 10 partite ancora, 30 punti in palio, 30 punti in palio, la Juve ne ha 18 di vantaggio e dunque sarebbero 12 punti. Il campionato, sempre che gli altri vincano, le altre squadre vincano, cioè il Napoli che vinca, perché se perde ancora è fuggito un nuovo Napoli, allora bastano anche meno, E non almeno non soffre come va bene, l'anno scorso mi pare era a pochi punti, ma quando tu già sei a 18 punti, non è che il campionato può essere anche finito, solo che ci sono delle partite molto, molto toste come quella del Milan, poi cosa c'è? Vabbè, c'è il Cagliari che in casa il Cagliari è fortino, e anche fuori quando gioca è forte, quindi speriamo che non la fermi, anche perché ti ripeto, sono tutte partite una dietro l'altra, vedi, il 2, c'è Cagliari e Juventus. Il 2 c'è Cagliari Juventus. Per cui vedi bene che. E poi c'è anche la nazionale da considerare. E Ronaldo è stato. Lo chiamano adesso la nazionale, lo chiamano. E speriamo che non lo qualificano, come sta pensando di fare il foto. Quei disgraziati dell'Atletico Madrid che vogliono fare il posto contro Ronaldo per il gestaccio che ha fatto in risposta a Simeone, non lo so io, vabbè, a Simeone l'hanno fatto 20.000 euro di multa, a lui se gli fanno 50.000 euro vogliamo dire io, per lui è una sciocchezza, 50.000 euro lui se li gioca come se niente fosse. Manco il pelo le corica, quindi vabbè, questa è una cosa anche, vedi, che quando ti chiamano in nazionale, Giulio, e sei viacco, poi quando rientri in squadra hai giocato già in nazionale, sei molto, cioè, non stiamo parlando più di ragazzini, sei nazionale, anche nazionale italiana, come Tendora, Bonucci, Chiellini, Spinazzola, Rabbo e Gavè, cioè quanti sono della Juventus? Forse sono loro 3, no? Dovrebbero, forse si chiama anche Ken, si chiamano, pensa un po' quel ragazzino, si è parlato l'altro giorno sul giornale che a quanto sembra è intenzionato a chiamare anche Ken. Insomma, penso che è un grande onore per quel ragazzino, è 19 anni e nemmeno colpito ancora, chiamato subito in nazionale. Anche il figlio di Maldini, 18 anni, è stato chiamato in nazionale under 18, anche lui, è bravino quel ragazzo. Io beh, nazionale già ce ne sono, ma perché Ken cos'è? Italiano, nazionalità italiana c'è? È italiano allora, è italianissimo, non è italiano, è italianissimo, è Lubivia, è Lubivia nato in Italia. Non mi ricordo di quale nazione è la madre, mi sembra, però il padre credo sia italiano, un viceversa, adesso non mi ricordo bene, lui è italiano, che è allora. Vabbè, è un ragazzino di quell'età. Quell'altro che ha esordito lo stesso in Serie A, dov'è? Con chi è che stava giocando? Con noi? Nel 2002, quello chi è? del 2002. E chi era questa? Non me lo ricordo. Ma gioca con la Juve. Giocava con la Juve. Tratto. Stavo guardando una partita a Ciscio, la Mugia Vaggio. Non mi ricordo c'era con la Juventus. Non mi ricordo c'era con la Juventus. Era la primavera. Sta esordito in Serie A con la squadra grande. Mi sembra con la Juventus. Esposito, può essere, buh. No, non è Esposito. Buh, un altro nome va. No, ma forse quando se ne parlato del portiere, no? Forse era Agüero che era stato convocato, che adesso l'ha venuto alla Sampdoria, forse era quello. Boh, stavo guardando una partita, non so se... Ma penso con la Juve. Penso con la Juve. Boh. Sembra con la Juventus, non mi ricordo il nome adesso. Non lo so. Boh. Non mi ricordo niente di questo fatto, non me lo ricordo, ma ora si tengono occhiali anche perché, ma ci stavo parlando, il giorno me l'avevo detto che l'intenzione era quella anche di chiamarlo in nazionale, poi bisogna vedere se questa intenzione era di Marsiglio, di chi era, o se era un'invenzione del giornalista, sai, alle volte i giornalisti inventano tante cose, forse chiama anche a Paolo Stesi di nuovo. Con bene, con questa nazionale. Io ho visto Cibarotelli, c'è il nome di Marchisio, tutti quelli che sono andati via, che stanno giocando fuori, ce n'è un paio lo stesso. Vabbè. Io ti posso garantire al 100% che la nazionale praticamente fa come l'anno scorso. Non ce n'è giocatori italiani che possono sostenere la nazionale. Cioè 22 persone ci vogliono, non è che venivo un idesino. Infatti, non è facile rifare una squadra con pochi italiani, non abbiamo i giocatori italiani, solo i stranieri ci sono in Italia, è per quello, e il sbaglio l'italiano non sta andando avanti come prima produceva più campioni, più giocatori, invece adesso non ce n'è. Perché? Perché la gente, le squadre, i presidenti preferiscono comprare a volte anche queste mezze calzette dall'estero che poi avvengono qua e fanno moltissime partite, tante di questi stranieri, perché non tutti sono grandi giocatori. Balotelli è sempre un grande giocatore, è che c'è un carattere di merda, però non so se viene convocato, non so, potrebbe anche essere, però non lo gioco. Balotelli si è rovinato la carriera da super, da solo si è rovinato col suo carattere, con la sua prepotenza cristina che ha gli hanno fatto i soldi già da un momento a quello lì, e lui ha fatto lo spaccone, ha fatto, perché sennò Balotelli sarebbe potuto essere sicuramente uno dei migliori attaccanti d'Europa. Invece ha fatto un cretino, ha fatto, e non ha avuto modo di salire troppo in alto, meglio per lui, ha fatto proprio male. Alle volte questi ragazzi hanno la fortuna, ragazzi, hanno di poter diventare qualcuno, e invece adesso è considerato così, un giocatore normalissimo, niente di particolare. E quanto a Marchisio ha preso una patata l'altro giorno, ha preso 5-1 con la Dinamo di Kiev, ecco, di nuovo Marchisio. E il Barcellona l'ha perso il Donato. Già l'ho vista, insomma, c'hanno la sfiga questi italiani all'estero, una cosa allucinante. Intanto lì da Buffon hanno rinnovato il contratto per altri 2 anni. Anche quello, ma quello cosa intendo di fare? Giocare fino a 50 anni? Vabbè, ma sì, se ne è andato in Russia, se ne è andato, lui è stata la sua volontà, quello. Ecco. come quello, sia fatta la sua volontà. Come sul campo italiano, anche nel campo russo. A proposito di Russia, ma te ne immagini che il governo russo sta considerando sotto contugno e al vano delle persone come terroristi? Io non lo so pure. Sentito, ma non ci ho capito un accidente. Cioè, praticamente cosa è successo? Loro sono andati lì a fare che cosa? Ma li stanno considerando, secondo loro stanno incitando alla guerra le persone. Perché stanno cantando delle canzoni, evidentemente ci sono delle canzoni che sono abusive, no? Evidentemente, non lo so com'è. Ma quella è una canzone, sta cantando e basta. Poi al ballo lui, gli dà, e poi tutto con giugno. E me li stanno facendo passare come terroristi del ISIS, non è possibile. Questo governo russo è tutto un degradato del tutto. Guarda, allucinante. Cosa si sta sentendo in giro? Una cosa allucinante. Sì, ho sentito qualcosa, però ero mezzo drumito. Ho sentito al TG. Allora ripranzo. Non ho capito io queste cose, veramente. Vabbè, adesso vediamo cosa ne salta fuori. Hai detto bene, proprio Albano, Toto Cotugno. Canzone, perché che canzoni stanno cantando? Beh. Ma non so nemmeno io che canzoni possono cantare. A meno che non abbia fatto qualche discorsetto, sai, in Russia sono molto permalosi, per cui sappiamo come esiste la dittatura, e questa dittatura magari la vogliono anche addossare agli artisti che vanno lì a cantare. Dopo tanti anni che vanno a cantare sempre tutti i cantanti italiani in Russia, e tu me lo vieni a considerare adesso, e ne metto non apprezzabile nel territorio russo, non è possibile, cioè non lo possono, non lo vogliono più, perché non ci possono più andare. Ma ciccioli, tutti i malesi, non intendi? Evidentemente secondo lui sono dei terroristi, non è che li considerano più grandi cantanti al mondo, no? Di nazionalità italiana, no, li considerai già i terroristi. Con tutte le canzoni che ha fatto Albano, con tutta la solidarietà che fa e con tutto quello che ha, bisogna fare un terrorista proprio, ma che gente deficiente che è. E poi è stata più grande si mette a fare il terrorista. Incredibile, non è possibile. Cos'è la parola, quello che si sente? Oppure quel deficiente che è andato e ha fatto quella strage, dove il nuovo dell'anno mi sembra, l'ha ammazzato 49, non so quanti feriti, ieri, nelle moschee, è entrato, ha cominciato a sparare, prima in una moschea, poi nell'altra, a distanza di chilometri c'era un'altra moschea, è entrato e ha cominciato a sparare, l'hanno ammazzato 49, e si è messo a gridare la voce di un politico italiano, che adesso non mi sfugge il nome, non mi ricordo qual era questo politico. Quello già l'ho visto, lì se l'avevo ubbigliato è molto subito, senza neanche mettere in galera. Dopo Russo, probabilmente se mi è stato la morte, quella gente mi russa, la morte non gli va bene. No, io avrei cominciato, intanto avrei cominciato a dare piedi a strappargli le unghie così, senza nessuna, con la pinza direttamente, a strappargli le unghie così. Non avrei strappato un'unghia al giorno, che avrei strappato. Dopo che avrei strappato le unghie avrei cominciato a tagliare un dito al giorno, dal piede e così via. Da quello ho cominciato un pezzo di birra, oggi, e un pezzo di birra domani, non per farlo soffrire, perché ammazzarlo sarebbe troppo onorevole per lui, perché quando c'è gente che non merita solo di essere ammazzato, ma merita prima di tutto di soffrire molto, non perché ammazzarlo anche, però fa la pezzi così, incominciare a raccontarlo. Io posso che sa circolare che va metti tu quella sega, quella lì mi hai bicicletta, prima rimani, adesso rimani così, poi la prossima settimana te ne tagliamo i piedi a pezzo a pezzo. Mica devo fare una favata domenica, buonasera. Quindi ti diamo la testa, ti serve? Anche i piedi. Ciao fra. Davvero qui. Ma nemmeno a Broco per il maiale, ma vanno bene quelle persone, fra. Come va ragazzi, come va? Giovanotti della frequenza. Grazie per i Giovanotti, magari fossimo Giovanotti veramente. Sarebbe bello. Ho tentato di fare la domanda lì all'anagrafe di stanza, ma non mi hanno scalato nemmeno un anno, niente, anzi nemmeno un giorno. Non capisco per quale motivo. Cosa ho fatto di male, io non lo so. Avanti qua. Fra. Andando stanno gli anni. Ciao, buonasera, ben sentito. Andando stanno, è meglio che vadano, sennò rimaniamo sempre giovani, riprendi. Capo, mia, domani ne perdiamo un altro di collega, mamma mia. Tutti scappando in pensione stanno, chi può è meglio che vada. Mi hanno invitato a girare 4 volte, ne ho 4 io. Adesso devo decidere dove andare, perché anche i miei colleghi, uno addirittura era andato in Cagliari, però gli ho detto non ci vengo al coso, però siccome devo andare per la partita Cagliari-Juventus il 2 aprile e lui va in pensione proprio adesso a fine marzo, capito, l'ho detto già ci vediamo il 2 aprile, ma tra l'altro il 2 aprile la facciamo da soli la festa, aiuto importante non se ne può essere un Gaglia, è la vecchia. E grazie, mi pare che si giochi una bella partita, non quella ieri, come quella ieri, abbiamo fatto bene ieri. Mamma mia, che squadra, per carità, me ne stavo parlando con Giulio, hai un gol di scarto, non riesci in casa a fare 2 gol, ma stiamo scherzando veramente, per carità, avanti giù. Ok, sì, no, ma la cosa più importante è che avevano pareggiato 0-0 la prima partita, è quello. E poi ieri, ragazzi, dopo 3 minuti, alla prima discesa che hanno fatto in aria, gli ha fatto il pallonetto, 1-0, e così è finita, peccato. Peccato per l'Inter, o meglio per la squadra italiana. Però siccome bufano troppo, allora tutto sommato sono anche contento. No, sto scherzando, non me lo frega niente. Io ho fatto tanti anni di sport e so benissimo che cosa vuol dire praticare lo sport. No, io sono sempre per le cose regolari e oneste soprattutto. Ci mancherebbe altro. Avanti fra. Sì, no, anch'io sono per le belle partite e poi uno può anche perdere, però te la devi giocare, devi sputare sangue in campo, sei pagato anche per quello, non va bene così. Però ha messo la freccia, la sorpassata di brutto, anche a livello fisico ci hanno massacrato. Avanti Cla. E va già ne ha tolto il portiere dell'Inter di Palegò, se non avrei biliato più di una. Cos'è fatto? Invece sputare il sangue, se cantarlo è uguale. Sì, anche quello è buono. Tutto fa brodo, l'importante è che andiamo avanti noi a buio di latte, a me me la futo assai. Non è mai altro giù. Beh certo. Guarda, a proposito, cosa ti sembra l'accoppiamento contro l'Ajax? La prima in Olanda, poi la seconda a Torino, cosa ti sembra come prima partita dei quarti? Preferisco il Barcellona, paradossalmente, ciao Franco, perché l'Ajax è una squadra nuova, non nuova, dice da una vita, c'ha tutti i giovani, ho visto la partita, corrono come demoni, hai visto che hanno fatto la testa a cacco al gol, ma sono forti davvero, forti, è una bella squadra, però la Juve secondo me ce la può fare, la Juve non è dietro a nessuno. Poi per quanto riguarda l'Inter mi dispiace che abbia perso, perché noi siamo tutti istruttivi e non ce ne frega o niente, o se no al limite dispiaciuti se una squadra italiana perde. Invece gli altri sono tutti anti-juventini, erano già pronti a festeggiare la sconfitta della Juve con l'Atletico. Ma c'erano molti e poi ce l'hanno presa in culo però. Sai cos'è, guarda, quando le persone perdono, chiaramente poi vanno contro la vincente, ma succede un po' in tutte le tifoserie, comunque quello. Ma io sinceramente non ci faccio caso, perché io sto solamente una cosa, che la maggioranza intanto sono tifosi della Juve, 14 milioni di, in Italia, solo in Italia, di tifosi contro ad esempio i 5, 6, 7 massimo che può avere l'Inter, Milan e anche il Napoli eccetera, per cui quelli guffano, possiamo guffare anche noi, ma non è il caso, perlomeno non io di sicuro. Ad ogni modo sono contento quando buffano e poi si ritrovano con la sconfitta. Perché? Perché quello significa giustizia, giustizia sportiva, io la vedo in questo modo. Avanti Franco. Sì capo, ciao Walter, chiedo scusa se ho fatto poco ascolto fuori, già in linea. Sì, come dici tu, le squadre queste blasonate che vanno sempre bene, che vincono sempre, danno un po' di fastidio un po' a tutti, ma purtroppo è così, il calcio è così. È a cicli, a volte va bene, a volte va male. Avanti, claro. Comunque Walter, non ti sento bene, stai dicendo un po' a tratti, non so, c'è qualche problemino. Avanti, claro. Macchina, Walter. È macchina. Sì, ma infatti su quello non ci piove, Walter. Tutti aspettavano la sconfitta della Juventus per uscire fuori dalla Champions, invece hanno le bigliate in gomma della vostra mano, capito? Perché la Juve c'è e dimostra anche all'Ajax che i ricudi volti a FTD, sicuramente al 100%. Sì, claro, anche tu hai cambiato apparato. Allora, Franco, sto uscendo con lui con i 7.000, sono in macchina e sto usando l'antenna di 28 metri, non ho antenne di distanza, e dunque lo metto in capo, non va benissimo, va bene in HF, va bene in USB, in FM, in AM questa radio fa cagare. No, come ti manchi l'alimentazione, non lo so, vedo la lancetta che scende di brutto, va un po' a tratti. A può darsi, no, l'alimentazione no, perché c'ho le stazionali, aspetta. Io non so, Giulio, tu come ascolti? Lo ascolto anch'io come lo ascolti tu, tratteggiato, perché va in macchina, è in movimento, capito? E poi è col baracchino normale, non niente di... E quello è il problema. No, volevo chiedere anche a Walter, Walter, a proposito del Cortex di domani, voglio dire, dove cominciate? In 40 metri oppure in 20 metri? Dove è che incominciate? Volevo dirtelo, non ce la fai a seguire niente perché la maggior parte dei collegamenti partono in telegrafia. Non ce la faccio ad ascoltarmi 20 metri, perché non ce la faccio, Walter? No, siamo c'è Tibor che inizia in telegrafia, CW. Ah, in telegrafia, no, non avevo capito come avevo detto. Ah, ho capito, vabbè, pazienza. Va bene, ma non le fate in corso, in analogico, non le fate, in nessuna frequenza? Le 5 bande, 10, 15, 20, 40 e 80. Tutte le 5 bande se l'ha fatto in analogico e in CW. È un frontend che fa solo lui. Tibor è il padrone della fabbrica, se tu guardi su Inter, OM Power, quello che fa gli amplificatori, adesso farà anche le antenne da prossimo anno. Il slovacco ha vinto già un circuito Award X qua da Sassari, dalla mia stazione. No, io viene, ci abbiamo preparato tutto il setup, lo lascio fare da solo, è una giugana. Questo non dorme, non mangia, aspetta. Sono stata varia sotto il ponte. Non dorme, non mangia, sta 24 ore sempre trasmettendo, ci vuole più fonia. Magari che sono mindinoso che la fabbricato con me. No, perché sennò entro di nuovo, a rompere le scatole, capito? Va bene. Fallo trasmettere, lascialo lì, dalle il mangiare le crocchette del cane, mettile con la ciotola dell'acqua e lo lasci lì. Ma di medusa uno diventa attaccato alla radio e non mangiare. Per carità di Dio. Vai fra. Ciao Gianni, sì. Ben arrivato anche a te, riprendi. Buonasera, non ho fatto mancare troppo per questo secondo. Mi c'è stata la versione top master, Claudio, e a te, adesso, in questo momento. Ciao a tutti, buonasera. Ignorante come una capra, Claudio, la bagaglia tua. C'è anche Giulio, Gianni. Cosa, Walter? Ciao Gianni, cosa hai detto, Walter? Lo sai, quando uno fa il contest è così, quello è professionista. fatto è che uno, tu perde la tua stazione, siamo spaventati, c'ha una decina di tralicci con le antenne migliori e più performanti che esista, una casa dove è dedicata solo alla radio, e in ogni stanza c'ha un setup non lineare, se mancano. Io ci sono più mancanti di te, tu già non sei di meglio. Più mancanti sì. Devi pulire pure in bagno, la radio, così a pulcio. Va bene. Va bene, va bene. E fare radioamatore devi avere passione, se non hai passione è inutile che lo fai. Perché tutti siamo radioamatori nella carta, io compreso. Però se poi non fai attività, sei solo un radioamatore nella carta. Avanti Gianni, riprendi tu, c'è Franco. Franco, io, Giulio, poi Walter. Oh Giulio, aspetta Gianni, Giulio, ce l'hai tu il numero di telefono di Massimiliano? Sì, sì. Allora chiamalo che voleva il numero da me, che ti deve chiedere un'informazione. Sì, adesso lo chiamo, dai. Allora, sorprendo un attimino. Ok, chiamalo tu così non glielo passo, dai, lui se lo segna. Va bene, avanti Gianni. Adesso non servono a sparargli che c'è un amico che mi sta prendendo. Li ho mangiati oggi con le pennette. Ne avevo tre matti, li ho presi proprio ieri già, se no li avrei ripresi. Basta, una giugana va il tatto rap, gli asparagi. Come le fai le pennette con gli asparagi? Che io che gli asparagi non è che le abbia, io ce l'ho preso perché c'è da là fuori, ho dato una mano, dai. Ma la verità non ne ho mai cotto di asparagi, perché a casa non è che se ne facevano uno. Le ho mangiate solo con la frittata e basta, però con la pasta non so come si fa. Solito tran tran, ti prepari prima il condimento, devi sbollentare, devi togliere la parte dura, lasciare solo quella buona, sbollentare leggermente, 5 minuti, poi li coli, li tagli tutti a pezzettini, li metti nel tegamino e fai soffritto, aglio, prezzemolo, cipolla, ok, fai soffritto, e poi con l'olio naturalmente, oppure li puoi mettere anche una noce di burro. Lo prepari così e poi lo metti nella pasta per condire. Se vuoi una cosa fatta bene, a parte, ti sbatti un uovo bianco e rosso, ci metti un pochino di pepe in mezzo all'uovo e appena appena di pecorino, lo giri bene, prima, come quando fai la carbonara, ok, prima butti gli asparagi e li giri, aspetti qualche secondo, e poi ci butti l'uovo dentro e li giri tutti. La fine del mondo. Sono tornato. Vabbè, ce ne siamo tanti, dice che con le asparagi, diciamo una sera. Ce ne saranno tanti, dice che con le asparagi. Uno mi ha detto di farle con la pancetta piccata, allora scritto con aglio, senza spolentare, con aglio, e poi metterci la pancetta piccata in mezzo, e poi lo metti in mezzo alla pasta, ci metti un po' di panna, dice che è la più. Ma se stai mangiando asparagi, mangiare asparagi, cosa mangi? La panna? Non c'è un po' di panna già. Normale, sì, ci puoi mettere anche la pancetta, ma sempre facendo il soffritto. Li devi sbollentare leggermente, perché sennò sono troppo duri. 5 minuti devi metterli a bollire, proprio 5 minuti. Poi li togli, li tagli tutti a pezzettini e fai aglio, cipolla, il soffritto assieme alla pancetta e poi ti condisci la pasta. Se ci metti la panna, addio, allora mangi panna, asparagi, non ne senti di gusto, capito? Chiamato l'hai, oh Giulio? Sì, era la radio fornitore che sta facendo, ma ha risposto la moglie. Sta facendo Gasulio, che le richiamano loro. Ok, no, perché non aveva il numero, capito? Adesso ce l'ha. Vabbè, deve chiedere un'informazione, sta facendo deve essere lavoro, serve una tua consulente. Capito già, anch'io ci potevo mettere la gorgonzola, gorgonzola mascarpone, lo giri bene, ci puoi mettere la panna, però se mangi gli asparagi deve essere asparagi, si sentiva infatti bene il gusto degli asparagi. Mangiate proprio oggi. Mangiate oggi, siamo andati in campagna, il mio vicino, tre mazzetti. Abbiamo fatto oggi le pennette con gli asparagi. A avanti Franco. Beh capo, no, anch'io li ho raccolti qualche giorno fa, li ho un po' anche regalati ai vecchietti, visto che ormai non ci vanno più. E comunque io anche li faccio così, non li faccio sbollentare, li metto nell'olio, li controllo la parte morbide, le spezzo finché rompe con le dita, quando vedi che non spezza più, quello ce lo butti. Sì, poi ci puoi mettere la pancetta, chi ci mette i ricci, chi ci mette i gamberetti, insomma ognuno ci personalizza come vuole. Avanti Giulio. Ok. Tutto è buono, soprattutto quella con il gorgonzola, per cui va benissimo, tutto è buono, poi specialmente io non mangio tutto indistintamente, per cui problemi non ne ho. Vediamo se c'è Walter ancora, Walter! Santa Maria rientrando, poi passa sotto casa tua. Ok, così si butta un bidone d'acqua, ti butto, passa che si lavo la macchina. Basta che mi avete fatto venire fame. Stavo dicendo appunto che c'era quest'altro che stava prendendo gli asparagi, però io non è che asparagi so cucinare, ma gli asparagi non è che li ho fatti molto poco, dico la verità, perché non è una cosa che mi affida. Devo mangiarti aspettata, dice qualche volta, però non è che mi affida un pubblicato, glielo preso perché mi sento la mano, che cazzo per aiutare. Anch'io l'ho mangiato da poco, affrettata, con le uova, infatti. Da poco l'ho mangiato gli affari. L'unica cosa che non sopporto, sai cos'è, Gianni? Quando vuoi vai in bagno a fare la pipì, l'odore degli affari. Quello non lo sopporto, però sono buoni, mi piacciono molto. Va bene, vediamo se c'è qualcuno che vuole entrare ancora su questo canale, così ingrandiamo la ruota. Avanti, c'è qualcuno che vuole entrare? Sì, ho detto basta, sono fatto venire fame. Buonasera, ciao Giulio, Claudio, Walter, Gianni e Franco. Ciao Tino Muscolo, sto rientrando. Come sto uscendo dalla macchina a te? Normale, Walter. Sono Santa Maria, nella discesa del Vialetto. Cosa volevo dire? Gianni doppio rutto. Com'era l'impianto di questa macchina? Diglielo, come è cablato? Bello, Non ci fate niente, sembra fatto tutto dalla fabbrica. Praticamente è tutto uno cruscotto con le radio. Sembrerebbe fatto apposta, dai, sembra fatto a regola d'arte comunque, per un bel piano. Un tempo di mezzo tinta, quindi mettete tutti i tavoli sopra il cruscotto, altrimenti ne sono fatte, quindi fai fare la gente competente. E allora, non ti ricordi con tutti i cavi in mezzo alla testa, che quando ti sedevi schiacciavi la portante col sedere, adesso ti sei messo in regola e quindi c'hai macchine serie e c'hai tutto il sistema fatto come Cristiano. Poi non puoi andare dietro a Marco, che lui è un professionista in queste cose, se no poi ti critica. Fatti una cagata, la lascia perdere. No, hai fatto bene lì. Bene, forse meglio. Siamo partito dalla macchina. Allora, la macchina è un bidone, è un terracanto. La macchina è così. Però l'ho comprata perché c'era scritto CP. E da lì ci sono partito, capito? Sì, me l'hai detto, hai preso quella appunto adibita solo a quelle cose lì dove c'era nel baracchino, tutte le cose, me l'hai già detto, non l'ho vista, quel giorno si è venuto quelli col Range nuovo, non l'ho vista, ma me lo immagino che hai fatto un bel lavoro, l'ho detto, Megalo, ma come sei, sicuramente hai fatto un bel lavoro. Raimondo, bravissimo, un tecnico con le palle veramente. Adesso mi è arrivato anche quel linearetto, quello che ha tre ventole. Solo che il problema qua è che brucia l'antenna, la brucia, la antenna non tiene più 250 watt. Adesso vediamo quando lo finisce. Comunque Gianni doppio rum è l'unico che l'ha visto. Volevo far vedere a Giulio, ma ormai me ne sono già andato perché l'acqua non la sopporto. Ma lineare con la tre ventole, quello è RMITA, ce l'ho io, quello a 500 watt, quella con la c'è a Vittorio, quello lì c'è. Non ho bisogno del truffatore col cappellino, truffatore, sì. Vabbè, ce l'ho anche io, non lo uso pochissimo, anzi l'ho anche staccato, l'avevo collegato al 756, poi l'avevo tolto, perché tanta attività non è facile, rimane lì in mezzo ai piedi. Va bene, saluto a chi è entrato, non ho capito chi è. Avanti Franco. Ecco, ma intanto saluto Muzzo, Lottino, ben entrato anche a te. Ma ci vuole una bella batteria a Walter per pilotare quella testa? La macchina c'ha la batteria da 100 ampere, adesso poi vediamo, se non ce la fa, vediamo un po' trovare una soluzione, se ci fermiamo. Claudio, se non lo usi te lo compro io un altro, tanto lo metterò in un'altra macchina. No, padre, te l'avrei dato senza nessun problema, ma l'avevo preso a Cagliari, l'avevo trovato usato a Cagliari quando sono andato da Cosio a comprare, come si chiama, quello di vicino Orbi a Porta Mesia, che non parla più, ci ha venduto tutto, li avevo preso tutto io, ma te lo volevo dire in fretta, non me lo ricordo, vabbè, a Posada. E appunto c'era uno di Cagliari che lo stava vedendo, ma l'avevo comprato e lo tengo perché il 2002 l'avevo venduto, capito, l'FL 2100 l'avevo venduto e quindi mi sono comprato quello transistorizzato, ma giusto per aiutare, niente di che, non è che sia un grande lineare, ce ne sono migliori, però va bene, anche la M va bene. E quello lì è uguale a quello che c'ha, già hai capito, se tu stai dicendo che c'è quello lì, è uguale al suo gemello di quello lì, capito, fa tutte le bande, già è quello lì, c'ha due ventole, tre ventole, non molto grandi, e anche ingombrante tra l'altro, in mezzo alle balle, infatti ce l'avevo sopra il piano del computer, vabbè, ok, ciao Mattino che è entrato, non te l'avevo riconosciuto poco fa, avanti Gianni, riprendi. Ciao Tino, anche io ho tentato una piccola collazione con questa collazione, no? E allora Tino che ci dice, c'è una aspetta, allora, no, ero al campo a prendere Gabriele, sto tornando adesso, è un'altra modulazione, un altro tipo di microfono, quindi sicuramente è per quello. Che apparato è questo? Già l'hai conosciuto già, quello in macchina. Il microfono è stato pronto usato. Il più 5. È compatto. È molto, molto basso, diciamo. Forse su questi regolanti. Vabbè, per comodità. Magari senti anche la televisione, aspetta qua altro. Adesso ti sento meglio, forse parla da più lontano. Vabbè c'è la televisione accesa, magari raccoglie anche quella. Adesso è più chiaro, è la buia, vero Marco? Sì, no, io l'ho detto bene, poi all'impossibile arriva a fuori. Quanti Giulio? È al telefono Giulio, al telefono. Oh, io la sento un po' cupo, abbastanza chiara la modulazione, ma un po' cupo. Va bene. Non mi ricordo, vabbè, devo dire una cosa, niente. Cioè, ce n'era uno che la stava vendendo. Boh, forse uno di quelli ce l'ha Stefano, o Walter. Mi pare ce l'abbia Stefano, capito? Boh, provo a chiedere dove se lo sta dando, te lo dico. Provo a chiederlo. Sì, perché me l'ha detto, quando l'ha visto mi ha detto ce l'ho anch'io uguale. Quindi sicuramente ce l'ho. Ok, va bene che va bene. Avanti Franco, riprendi. Nega, sto prendendo un po' a Walter, sicuramente sta arrivando giù, per la sua. Però non lo voglio fare, gli ho fatto una volta anche con al cartuccio, con avvolti, fai i mattetti piccolini, li avvolgi con la pancetta, quella affettata, la pancetta affumicata, e poi li fai al forno, al cartuccio. Eccomi, sono qui. Basta appena. Abbassa appena Tino. Guarda così, non ho acceso qua. No, lui già va bene, se no stavi strappando, va bene adesso. Vuoi farci tutto? E lo è, occhio, ma come ti riporta fogli? Ecco, vedo qua tutti i portafogli, devo. Beh, lei si, guarito sì. Sì, ma sono io che sono guarito. Lei si, è molto buono. Guarda, sono da come ieri, me. Non cominciate a cazzo che sto facendo male, perché non ci credo manco io. Modulazione da 10 all'ore. Perfetto. stai usando? Fino? MB più 5. Ah, dimmi ca. MB più 5 stai usando con quel baracchino. Fatti dare la padrina un tram più 3 e poi me ne dai la risposta. Già, va bene così. Ma sto usando la 44. E adesso già 7 stai usando il 44, un'altra gubba. No, io non sto usando il 44. Io sto usando il Barack Obama, Barack Obama con il tram più 3 plus. Va bene, stavo utilizzando il MIGA 48, con il 5, però vabbè, la radio è vecchio, l'ha fatta Marco Scorpio. Manda un po' di... Sai cos'è già? È questione di onde elettrostatiche sicuramente. Vediamo un attimino, aspetta un attimino. Vediamo un attimino, ora, così meglio va. 1, 2, 3. No, così va bene, sì. Poco fa stavi strappando. Sì, lo fa un pochino di difetto purtroppo per via l'incidente in corso. Cosa va? Torre una varia? Un po' di onde elettrostatiche che si carica. Una volta che appoggio la mano alla radio se le scarica. Ma c'è qualcosa? È prostatiche. La prostata, no, che è? Prostata, che è? Va, ho capito Franco, ma non ti sento più. Tu mi ascolti ancora? No, sento che stai parlando, ma non capisco. Walter, dimmi tu. Volevo dire Claudio. Fra, altro che non ti ascolta, arrivate lo stesso segnale da entrambi. Mentre invece Claudio, io e Giulio lo riusciamo ancora a tenere fuori. Santiago Nove, arrivi qua, va. Nove, anche qua sei, Walter, Santiago Nove. Vabbè, davanti a voi, ma è anche davanti a me, già lo vedo, io li punti, non c'è problema. Ho capito, Nottino, che difetto ti sta facendo. Cioè, si carica di elettrostatica, ma cosa, il microfono o la radio? La radio, un potenziometro esterno. E niente, ogni tanto si alza il micchigin, appoggio solo la mano senza toccare niente, solo lo sfioro e si scarica. Asciuga. Io il Cesario, Baccari Dario. E la mia me l'avevo mandata nuovamente, quando è? Settembre dell'anno scorso, di nuovo. 2 anni, torra, puntini, a 780 euro. Cioè, se dovessi vendere quel 440 che ho io, dovrei vendere 1000 euro per recuperare tutte le riparazioni che c'ha. Perché una volta l'ha riparato Fabrizio, ma gratis praticamente, come fa sempre lui. E altre 2 volte, questa è la terza volta che vado a pagare 180 euro per il terrazzo. Roba drammatica. Buonasera. Vabbè. Avanti, buonasera. Buonasera a tutti, Gianni, qua da Centro Storico Stazione, buonasera in ruota, non so chi c'è, e quindi salutole a tutti. Ciao Gianni, però Gianni 1 o Gianni 2? Uno è Gianni lo Broffetta, l'altro è Gianni lo Boetta. Perché si devo scoppiare? Ah no, scusa, Gianni doppio Rut. Rut, Gianni doppio Rut. Ciao lo Broffetta, infatti io non sono tutti e due assieme, uno lo chiamo doppio Rum e l'altro lo chiamo Gianni, se no ci comprendo un accidente. Vai Franco Garifano. Ciao Gianni lo Broffetta, ben entrata, ben sentita anche a te. Ci vuole mettere anche Julian in stand by, faccio al telefono. Avanti muscolo. Che zona ci vogliono arrivi forte? arrivo, meno male, dai. Almeno qualche duro. Dove sei? Vicino a me sei? Sacro Cuore? No, periferia della Feroce. Non qui arrivi bene, anche la radio si è migliorato parecchio. Vabbè, appena acceso era, quindi ogni tanto lo faccio scaldare anche questo. No, va bene. Avanti, doppio rumo. Ciao, profeta, mi sentito, l'organità. E allora che si dice? Bene, un salutone, non ho copiato il nominativo dell'amico della Feroce, vabbè, un salutone anche a lui, ben sentito. Fin qui tutto bene. L'amico è Tino Muscolo, vai. Mi prende un profeta, Tino Muscolo. Capa, no, non, mi ero perso il passaggio poco fa. Ok, salutoni, ben sentito, qua arrivi una bomba, proprio il segnale perfetto, la radio più che buona. E niente, questo è come arrivi qua. Va bene, ok, avanti qua. Aspetta, bene, caffè pagato anche per te domani mattina. Ehi, va bene, io ho commutato. Ok, ciao, Roffetta. Sì, va bene, Tino arriva sempre bene, non c'è problema, 9:20 qua. Il suo segnale col capo è quello. Ottimo per la truppa, gli altri già lo sapete. Va bene, Walter si è sceso dalla vettura. Controlla la macchina, Claudio. Cosa? Controlla la macchina che sta suonando l'allarme. Ah, sono io, quando cambio radio metto tutto, accendo le luci esterne. Che allarme, parte tutto qua quando diamo motore. Qui alle patronate 9:20, poveraccio, l'ha bruciato il malattino. Sta ancora piangendo, sta. Meglio per lui che è venuto sotto casa a prendermi. E mi ha chiamato col barattino, io ho schiacciato e gli ho detto sto scendendo, quando sono sceso l'ho visto inchinato, un fiaco di bruciato, ho detto ma se incendi la macchina, ma ho incendiato il baracchino. Gli altri piccoli ancora io, non ti preoccupare. Un secondo, là che c'è la Giovanna, ci andiamo dopo. Sono rientrato. Ehi, a Giulio, è arrivata Giovanna Coca-Cola. No, devo scendere qui da lei, perché ieri è arrivata la figlia qua, ha dormito qua, capito? Dopo che la baracchino che mi ha fatto smontare tutto, Claudio e Gianni, perché stavo dicendo male il raglio che discende. Magnaci tutti e due. Vabbè, mi porto là che scendo la Giovanna, io il cartetto per Giampiero. Ce l'ho tirato io. Ci abbiamo fatto qua. Tino, al primo piano c'è la Coca-Cola, al secondo piano c'è la birra, avanti Giulio. No, la birra è giù, mi dispiace, non la posso prendere qua. È meglio al bar, guarda, almeno giù è più tranquillo quando bevi. Ci sono tante di quelle ragazze buone lì alla bancone. Vai la Coca-Cola, vai, è figlia. Mi prendi Giulio. Ok, ciao a non so se è andato via qualcuno, se si è aggiunto qualcuno altro. Ci siamo sempre tutti quelli che poc'anzi ho lasciato? Si conferma. Ok, dai. Allora faccio girare, a chi tocca? Non lo so a chi tocca, dai. Quelli a caso, Gianni? Ehi. Cioè, Antonetti, io dico la verità, ieri stavo dicendo qui, di lasci dopo io e ti parlava, ma non ragione. Ma te ne hai fatto smontare tutto ieri, a provare microfono e cose del genere. Boh, invece non c'era niente, tanto mi volevo salpato tutto due solo. Quando vi trovo vi trovo un po' guarda, non sono capocollo per dire vi trovo. Tutti due da che non avete fatto tutto bene. Poi non vanno a bere quello, mi trovo tutto mettere l'altro. Non vi do più retta, guarda. Lasciatelo stare Antonello, siamo un po' Ivano, avanti, l'hanno fatto ieri a esce, beve una Mazzotti e torna con la voce tutta amplificata. Dai, sta facendo bene, dai, lascia tutto così. Avanti, Rubrofetta. Eia, ieri stavo guardando un po' di vecchie radio su internet, quelle vintage, e su eBay se ne trovano diverse, molto carine. Parecchia roba, ho visto parecchia roba dagli Stati Uniti, molto, molto carina, molto interessante. E niente, mi son divertito a vedere un po' di vecchie radio base. Certo che ne ho 8, io già te l'ho fatta vedere, una che quella che ti ho mandato è la più grande, gli altri ne ho 8. Sì, baracchini dentro la scatola, non so più cosa vanno, e messi anche in vendita, ho agganci, però a gratis rimangono dentro la scatola, perché due sono, tra l'altro sono colti, quello che stavo usando poco fa no, quello non è colto, ma ne ho due che sono colti, quindi chi li vuole li paga come li ho pagati io, se no rimango dentro la scatola, non è offerta a sé. Tanto qua ci ha smantellato tutto, è rimasto solo il 440 con un base VU e basta, il resto è tutto il baracchino normale che ogni tanto lo accendo perché mi piace, è una bellissima recezione, quello del 48, quello del Bex 48, 82 mi sembra, 82 48, adesso mi ricordo, su Garbuccio, va bene. Tino, ma quella che hai tu, gemella della mia, per capirci, è quella che ti avevo fatto comprare io da Antonio, R20. Scusa, crack, non te ne fanno, cos'è? Quella che hai tu, uguale alla mia, uguale a questa, la linea, perché ce l'ho anche io uguale alla tua, è quella che ti avevo fatto prendere io da Antonio R20? La prima sì, era quella di poi, è stata cambiata da Franco Delta 1 e poi ha avuto l'incidente di percorso. Vabbè, gli incidenti di percorso già li conosco. No, no, perché mi è venuta in mente una cosa di quella di Antonio, appunto delle scariche elettrostatiche, di questa cosa che mi ha detto, perché l'aveva fatto anche a lui, però lui aveva beccato un'imbatinata, un fulmine, una cosa allucinante, l'aveva riparata Mario Nottari, in via Galle Mamese. L'aveva riparata per non spedirla fuori, mi sono ricordato questo particolare, vabbè, ok, avanti, come si chiama, Franco, riprendi. Ah, devo andare, ci avete parlato ieri sera, dopo che ho parlato a voi a Baracchino, avrei degli apparecchi cavo e antenne, quindi ti faccio sapere qualcosa appena vado di là, a vedere quanto vuole, quanto verrà, ok, ti faccio sapere questi giorni, stai in telefono. Ehi Antonio, fammi sapere se posso prendere qualcosa che mi serve, ben venga, ma no, non mi vai più di là, è già maggio più il drum. Cosa hai detto doppio rum? Che passa, va a chiamare, non c'è da dire, se ci sei, ma se chiama quando stanno parlando gli altri io non lo sento, Covettino che arrivi 9:20, non è che... Vabbè, cosa stavo dicendo? Un'altra cosa, vabbè, no niente, Antonello, no, le ho risposto. Franco, riprendi e fai girare, dai. Scusa Fra, Fra, ti ripeto, l'avevo cambiata per lo stesso problema, quella di Fra, di Antonio, che erano usciti i puntini, ti ricordi? L'avevo cambiata tramite Franco, me ne ha dato una di pacca, nuova, in scatola, che era perfetta. Dopo qualche anno che l'ho avuta, nuovamente erano usciti i puntini, ma vabbè dai. Sì, ma quella roba che poi è stata trovata dentro, io non capisco, cioè a me è successa la stessa cosa, però io quella parte lì non sapevo manco che esistesse, figurati. Tant'è vero che a me mi sono partiti, adesso ultimamente a me non mi ha fatto i puntini a settembre, praticamente non... non mi commutava le bande, capito? C'è dentro lì dove tu hai trovato quella roba che mi hai detto, per capirci, lì ci sono dei filtri, no? Dei filtri, e a me mi si sono staccati, mi sono bruciati tre di quei filtri, tre di quei relè, e non mi commutava la banda, capito? L'ho mandata fuori a riparare, perché io non sono capace a fare una riparazione, a parte il fatto che 440 proprio non li ho mai riparato, qualche cazzatina di coso, di trimerino, sì, ma altre riparazioni non li ho mai fatte. Sul 140, sui 680 qualcosa me la sapevo fare, mi aveva insegnato a Carlo, ma altre cose sul 440 non l'ho mai toccato, anche il 430 lo stesso mi aveva riparato Fabrizio. Però lì a me mi si sono rotti proprio, non staccava più, capito, rotti proprio, bruciati questi tre relè, ed era 10 dove passava anche la 27, 10, 40 e 20 metri. Sono andata fuori per cambiare questi tre relè, riallineare tutta la radio, mi ha pigliato 260 euro più 20 di trasporto, fate un conto, 180, ma non lo riparo più Tino, non lo riparo più, la prossima volta che si guasta la tengo come vintage assieme agli altri, perché è impossibile, cioè quanto costa una radio del genere se tu vai a vendere? Questa sta riparata, ma no, riparazioni serie, riparazioni due volte Bianconi, una volta me l'ha fatta Franco Montagnani, tutta una volta me l'ha fatta Franco Montagnani perché Bianconi stava già chiudendo, cioè canti voltaggio riparata radio. Alla fine sono radio vecchie che basta o niente, che vanno in tilt, capito? Per quello che non conviene più manco comprarle. Ok, dai. Franco, riprendi, scusate, devo fare un documento al PC e poi riprendo, No, tranquilli. Ma cos'è che lo fa partire? L'alimentazione? Qualche smalto di tensione o qua? No, sono radio molto... Allora, il problema del 440 è quello che, perlomeno io che sono kenwoodiano, ho iniziato nell'87, il primo 440 l'ho comprato proprio da Mario Nottari, perché avevo il 430, che mi ho sempre tenuto in considerazione, ce l'ho ancora. Allora è uscito il 440, 600 memorie, accordatore automatico, i filtri, insomma una diversa radio, che poi meccanicamente il 430 se lo mette in tasca il 440, no? Perché io quando faccio le comparazioni io te lo commuto e lo sento immediatamente la differenza che c'è solo sul ricevitore, sul trasmettitore non ne parliamo, ma è molto, molto più meccanico, questo è stato sempre constatato da chi tecnicamente conosce quel tipo di radio. Però il problema è che partono questi cacchio di condensatori e fa un casino dentro allucinante, quindi prende tutta la parte del VCO, PLL, tutto il sistema di ricezione e trasmissione, ti gaga tutto perché scoppiano proprio questi condensatori, capito? E vanno cambiati nell'arco degli anni, prima che succeda il problema, quando tu già vedi che inizia un puntino, e questo c'è Giulio come ha fatto a lui, ha iniziato con un puntino, sì, ma poi si riprende, no, adesso si ripreso, non sta facendo, come inizia quell'allarme lì? Bisogna subito, immediatamente metterla sotto mano, cioè farla fare immediatamente, perché se poi partono tutti, ci vuole una cifra allucinante, senza il lavoro che c'era a fare, ma io l'ho visto fare una cosa pazzesca, smontare in mezzo alla radio, ci vuole un esperto, ci vuole uno che abbia passione a risolvere tutti questi condensatori, mi pare che sia una ventina, poi sono resistenze, dio di transito, devi ripulire tutta, mamma mia, un lavoraccio che non viene bene a dirlo. Questa cosa succede con l'andare del tempo, perché le radio sono vecchie, capito? Se la usi ti può anche durare, infatti io l'accendo tutti i santissimi giorni e la uso tutti i santissimi giorni, capito? Se poi non la usi, allora è peggio, allora è ancora peggio. Conosco per il condensatore, è un casino, sì. Allora, quindi anche tu ti stai puntando sui vecchi apparati, Gianni, lo profeta, ma valvolari? No, stavo solo dando uno sguardo, no. Niente di che, ho preso spunto dalla foto di mamma dato Claudio e ieri giusto per fare orario mi sono messo a dare uno sguardo agli apparati che ci sono in vendita su eBay, ma giusto così a livello agli olio, senza nessuna pretesa, solo guardare, e ho trovato qualche radio carina, interessante, soprattutto negli Stati Uniti, lì ce ne sono parecchie, vintage, molto carine. Solo guardare. Ci sono anche parecchie fregature, oltre se compri, perché ce ne sono tutti che sono difettosi, eccetera. Ci ripetono per questo. Io non ho detto niente. In effetti già è così. Le fregature già si trovano. Sì, no, Franco, il discorso puntini che ci stava spiegando Claudio, infatti è così come ci stava dicendo, perché succede questo, siccome è una radio questa che è stata costruita per utilizzarla anche in macchina, no? Allora all'interno dove c'è il VSO eccetera, c'è un isolamento fatto dalla casa, dalla fabbrica, in modo che i colpi, diciamo, i sussulti, queste cose quando uno se le mette in macchina non si staccano i condizionatori eccetera, no? Però con l'andare del tempo, siccome questa qui è una specie di cera che buttano sopra, con l'andare del tempo si surriscalda, surriscaldandosi perde l'isolamento. Siccome queste radio dopo che tu li usi che scaldano, perché scaldano, e poi li lasci stare, si crea una specie di condensa. Questa condensa non fa altro che portare in cortocircuito i vari componenti appunto relativi al settore VCO eccetera, capito? E allora questa specie di cera che c'è diventa conduttiva, diventa. Ed ecco che il guaio comincia lì, incomincia. Allora incominciano i puntini, il primo, il secondo, il terzo, poi diventa tutta la scala, tutta piena di puntini. E di conseguenza non c'è più il funzionamento delle radio. E per fare quel lavoro bisogna tutto questo isolamento, questa cera, bisogna chiuderla, pulirla, cambiare i 4 o 5 condensatori che ci sono nel settore. E poi ci vuole un allineamento, insomma è un lavoraccio come si stava dicendo Claudio, proprio, che giustamente siccome il lavoro è lungo e ci vuole una certa cifra, e ha ragione Claudio, a un certo punto non conviene più a ripararlo, questo per quei motivi lì. Mi sono spiegato o Franco? Campa, soprattutto poi diventa anche onerosa la cosa, a volte mai ne vendono parecchi, con qualcosa in più, con 200-300 euro in più, però almeno ce l'hai nuovo, c'è il nuovo, è controllato, allineato e tutto, non lo so, vediamo un po'. Avanti, il muscolo. Il muscolo avrà chiesto un attimo di cose, sì, ciao, intanto sì, non si sta portando, non ti avevo salutato, toccante, ciao anche a Gianni Lumbrefetta, che io ero al telefono quando sei entrato tu, per cui non ti avevo potuto salutare. Sì, ma è così, in effetti è così, non è possibile. Io per qua l'ho fatto revisionare, ma a me me l'hanno fatto grazie, un amico dagli amatori, ho fatto un lavoro splendido veramente, ma lui è attrezzato, oltre che è capace, è anche attrezzato con vari strumenti, eccetera, che se ci occorrono per fare vari allineamenti. E devo dire che me l'ha sistemato proprio nella maniera migliore, proprio perfetto al 100%, su tutte le bande e su tutte le frequenze, per cui non è da dire. Anzi, lo devo sempre ringraziare, sempre di più, perché mi ha fatto un lavoro straordinario. Tra l'altro non mi ha fatto spendere un centesimo, anzi si è anche scomodato, che è venuto, se l'ha preso e me l'ha riportato nel giro di un giorno e mezzo, due giorni massimo, cioè l'ha preso oggi, domani non fa il lavoro, dopo domani me lo riporta, ecco così è stato, tutto il tempo questo. Ha fatto anche le ore piccole, ha fatto per fare quel lavoro lì. È stato molto ma molto gentile, veramente, veramente sì, una persona ultima veramente, che io conosco anche il verticale, tra l'altro, cioè l'avevo conosciuto anche da prima. Avanti, i danni doppio russo. Fabrizio è una roba, è un bravo tecnico, poi mette mani, lui è oro, fa atletismo, non fa atletismo, molto attivo che deve far riuscire, diventare riuscire di nuovo, macchine antiche, queste cose mi piacciono. E lo sapete anche male, dice qui che fa bravissimo. Sì, è una persona molto eclettica, dunque si adatta a fare di tutto nella migliore maniera, per cui va bene così. Vattene, ora è andato via, io poc'anzi era al telefono, Vattene c'era ancora? Ah, le prenderà da casa sua. Ah, ok, vabbè, no, perché non ho sentito più che è stato rilanciato, per cui... Vabbè, dai, rilancio per Gianni le... l'ombre affetto, avanti Gianni. Eia, ciao Giulio, ascolta, una curiosità, non so, ma hai toccato qualcosa? Perché oggi rispetto a ieri arrivi un pelino più basso come segnale, ma proprio appena appena. Adesso giusto questa cosa ti volevo far notare. Una curiosità, volevo sapere se avevi toccato qualcosa o boh, non lo so. Può essere qualche battito meno magari, aspetta un attimo. Adesso un pochino di più, ma niente di particolare. Questo come lo pulisco con pennello, si gira e poi magari cambia la potenza. Così va bene così. Andava bene anche prima. No, vabbè, adesso un piccolo dettaglio, non era importante. Ho giusto notato questa cosa qua, ma voglio dire, niente di così evidentissimo. Va benissimo. Va bene così. Avanti, cra. Io manco lo guardo lo Twitter, ma sento la radio, vabbè. Ma oh Giulio, quella radio che tu era la mia, lo sai, no? Che era la mia. Quando io l'ho data a Franco, quindi sto parlando di tanti, tanti anni fa, era stata appena revisionata. Quindi ha durato tantissimo la tua, ma la mia è stata fatta 2 anni fa. 2 anni precisi, 2 anni. Al secondo anno ha iniziato a fare già nuovamente il difetto, capito? E quindi anche adesso è stata revisionata tutta, dall'A alla Z, non solo i condensatori, ma tutta dall'A alla Z. Ok, però cazzo, ci vuole un patrimonio. E questa radio purtroppo sta andando a scendere. Se prima un 4,40 lo potevi vendere anche a 450 euro, adesso lo trovi a 350 euro, capito? Lo trovi a 350 euro, quindi per 350 euro ti pare mi metto a vendere una radio tutta revisionata, nuova, e poi non è così nuova perché l'usura c'è, ma dico è più nuova la tua perché quella che avevo dato a Franco era molto più nuova di questa. Questa in più di quella che c'è tu, c'è la scheda foneme e tutti i filtri, tutti dall'A alla Z perché lo usavo a livello amatoriale inizialmente. Capito? Quindi è così. Però sto dicendo, in compenso la tua ha durato molto di più rispetto a quella che ho io, perché questa che ho io l'avevo data a Roberto, poi me l'avevo ripresa, capito? Me l'avevo ripresa. Quindi praticamente ha fatto un salto e poi me la sono ricomprata. Però quella che io avevo data a Franco è stata revisionata un sacco di anni fa, ma tanti anni fa, da Bianconi. Anzi no, quella è stata revisionata da Guidetti, figura di due cant'anni già, quindi non ti puoi lamentare, ha durato tantissimo. Invece la mia, 2 anni fa, è stata mandata perché c'era lo stesso problema che ha fatto a te. E l'anno scorso a settembre sto parlando, mi siamo a marzo, a settembre l'anno scorso che me l'ha ritornata prima di Natale, capito? Perché non è che fanno come hanno fatto a te, no? Vengo, te la prendo, te la faccio e te la porto. Tu sei attenta 2 mesi, meno male io avevo il 4,30 quindi non mi preoccupavo. Però sono tenuta 2 mesi, capito? E me l'ha rimandata. Tra l'altro ha fatto anche un casino perché è successo un mezzo casino, vabbè. Non stiamo lì a cincischiare. Comunque, questa è la mia ed è la mia, sono sicuro che è la mia perché c'è la scheda fonema. L'altra non era la mia. Va bene, e comunque si è andato bene perché ha durato tantissimo, mentre la mia ho già deciso che la prossima volta che non ci spendo manco una lira, tengo il 430 e questa la metto dentro l'armadio come monumento a Mazzini. Vai Franco. Capo, poi mi spiegherai cosa servono questi filtri che si aggiungono come optional. Vediamo se c'è ancora Alessio, ci sei? Non c'è, vai Cla, cosa sono questi filtri? La parte dei filtri, c'è il selettore dei filtri del 440, mentre nel 430 c'è solo un filtro solo che serve praticamente per stringere e allargare. Quello invece no, io ce li ho tutti, cioè MFM, SSB e CW pure, ce l'ho tutte e quattro. Tutto il selettore tu lo sposti e praticamente fate lo tenga in automatico in modo che non sto lì a spostare. Poi in aggiunta c'è la scheda fonemica, che è questa. Praticamente ti dà la, la scheda fonemica, basta, completo, completo di tutto. Ma avevo, speso un patrimonio quando comprai questa radio completa di tutto. E poi l'avevo venduta perché ne avevo preso un'altra, poi mi sono pentito perché era un cesso, allora fortunatamente è ritornata a me. Quella è sempre la stessa. È sempre la stessa, capito, Fra? Ogni giro, che poi le macchine, no? Alla fine una volta col passare gli anni poi ce la ricompro, ma non dico la stessa macchina, ma quel modello lì. Avanti, Giulio. Ok, Franco. Sì, ma certo, sì, questa se va i filtri. Beh, diciamo che i filtri si usano, praticamente si usano quando si usa la banda laterale, niente di più, in AM non è il caso. Cosa volevo dire per quello? Volevo dire che questa anche l'accordatore entra contenuto un flanco, dunque non ha bisogno, a differenza del 430, non ha bisogno dell'accordatore esterno. Questo schiaccia il pulsante e si accorda nelle varie frequenze, anche se c'è l'antenna per dire che ha qualche punta di ROS, questo tu prendi il coso dall'accordatore, l'antenna, e si accorda da sola e dunque non rischia la radio, ecco come. No, diciamo che è complesso, dai, e poi a tutte le bande, anche il CW, però il CW io non lo uso, non tanto perché non lo posso usare. Io uso solo la M, basta, la M, l'SM posso usare, anche la banda laterale, ma sempre nella banda 27, non è che posso usare la nostra, io patente non ne ho, per cui anzi devo dire che la uso anche a bassa potenza, bassissima potenza, perché non mi interessa nemmeno il segnale che mi danno, è interessante che mi sentano con la radio, il microfono è il solito quello caratteristico appunto all'altro, per questa radio, per l'MC60, eccetera eccetera. Premesso che ci sono sicuramente dei gruppi anche migliori adattabili a questo, tipo che so io l'MC80 o anche l'85, penso che sia così, vero Claudio? Vanno meglio quelli gruppi, o questo è l'ideale per le 440? Guarda, qualsiasi microfono che va bene per il 440 perché è PLL, quindi è un analogico con una spinta molto forte in AM rispetto agli ICOM e agli AIS. Va bene sia l'80 che l'85, io preferisco il 60 perché è più bello esteticamente. Quelli a flessibile non mi piacciono, infatti no, ce li avevo, li avevo dati a Gianni Capri 2, quelli a flessibile, sia l'80 che l'85, che non so che fine hanno fatto. Attento però Giulio, che è opzionale, i filtri del 440 sono tutti opzionali, anche quello dell'SSB, se tu ce l'hai in automatico il selettore alla tua destra in fondo sotto in automatico e metti sulla prima tacca N1 lì e non senti in SSB che stringe, non ce n'è filtro, non ce n'è filtro neanche SSB, non è obbligatorio, la radio te la danno senza filtri, tu devi essere tu a chiederli, sia quelli dell'SSB sia gli altri che ti servono. Io ce li ho tutte e tre, proprio dal selettore me li indica tutte e tre, capito? Quindi giro e mi stringe o allarga la banda, capito? Non è che ti danno la radio con i filtri, no, anche il 430 è così, la stessa cosa, i filtri del radio Kenwood 430, 440, 140, 180 sono tutti opzionali, me l'aveva proprio fatto notare Fabrizio che mi aveva detto nel 430 c'è i filtri, invece nel mio non ci sono. Sì, ma ci sono quattro dietro, lo stesso, non so, la prima attacca, infatti il neutro non c'è, e poi c'è la prima attacca, seconda, terza e quarta attacca, e ci sono tutti e tre i filtri qua, l'ho provato anche adesso, per cui sì, ci sono tutti e tre qua, va benissimo. Va bene, dai, facciamo girare, avanti Gianni del Monte. Doppio rumore. La tua luce è aperta. E magari al telefono. No Giulio, l'ho mai capito, quando tu vai in SSB, metti nell'SB e quando stanno parlando tu vai in N1, ok, N1, se non senti il corrispondente, filtro non ce n'è perché te lo elimina. Sì, lo so, infatti è così. Ma anche quando parliamo il 27 e andiamo in banda laterale, io uso sempre il filtro, perché la modulazione è perfetta. Mentre invece se metto adesso che siamo in AM, metto il filtro, allora la radio diventa più cupa, va bene lo stesso, si sente bene lo stesso, tutto quello che vuoi, però eliminando completamente il filtro di AM va chiarissima, perfettissima la modulazione. Sì, lo so, ho studiato bene, io ormai lo conosco a memoria, anche al buio posso toccare i tasti qua, per cui non so problemi. Poi c'è anche il vantaggio, Franco, che c'è il box, no? Tu schiacchi il tasto e puoi parlare da lontano senza bisogno di prendere la pulsante, che si inserisce da sola, si inserisce. Ma quello c'è tante radio. Avanti, Franco. Oggi è bello ascoltare certe cose, sentivo sempre parlare di questi filtri, passapanda, roba così, però non capivo la funzione di questi filtri. E poi stavo guardando su internet questi Asai, ho trovato l'apparato, un apparato Asai, Gianni, lo profeta, riprendi. Eia, veicolare, cos'hai trovato, roba veicolare? Non lo so, è grigio satinato, poi c'è una manopola a destra, uno smitter, no, magari un altro modello, questo è nero, il frontalino nero, la manopola dei canali centrale, lo smitter è in alto a sinistra, sotto c'è l'attacco del mic, il volume, e poi sulla destra in alto c'è il display rosso, e poi sotto c'è lo squelch, semplicissimo. No, allora non è quello, è un altro modello, questo è un forse un po' più vecchio questo, vediamo un po', il muscolo c'è ancora? Allora, riprendo io un attimo, mi saluto che arriva la gente, buona serata a tutti, buona continuazione, ciao. Riprendo io, ciao Gianni, ciao. Sì, sono rientrato, ho fatto quello che dovevo fare, quindi posso riprendere. Avanti Claudio per i saluti a Gianni. Ehi, ciao da Pio Rum, ci sentiamo, dai. Io ancora aspetto un pochino, intanto l'ho portato anche nel primo pomeriggio il cane. Ciao, alle prossime. Avanti, Giulio. Ok, ciao Gianni, alle prossime domani se coincide, dai, grazie per la chiacchieratina. Sì, va bene così. Avanti Franco per i saluti a Gianni. Capa, ciao Doppio Rum, grazie alla compagnia, alle prossime, fa sempre piacere. Avanti Gianni Lubrofetta. Stavo dicendo, tra le radio che ho visto ieri in vendita, ho beccato anche una Galaxy. Mi sembra che fosse in vendita in Italia. Cazzo, una bella bestia. Bello, molto bello, tenuto bene, c'erano un sacco di foto. Generalmente chi pubblica molte foto lo fa proprio per documentare lo stato ottimale della radio, e questo qua ho visto che ne ha pubblicato almeno una quindicina. Stavo giusto leggendo una descrizione, ma sempre per curiosità. Ho visto che è una bellissima radio, bella, bella grande come piacciono a me. Ok, avanti qua. Vabbè, perché è grande, debba fare chissà che cosa, già hai visto quante ne ho io grandi pure, sempre baracchini, c'è chi li chiama apparati, io li chiamo baracchini, questo che sto usando è un apparato perché è un HF, già hai visto le foto, però per me qualsiasi radio, CB, anche base, per me è sempre un baracchino, io chiamo, perché è un baracchino base, va bene. Avanti Tino, riprendi. Dai, fai entrare questo break, avanti, chi è? Ciao, Non è la tua solita, comunque, va bene. Segnale non è il tuo, Santiago 6.5-7 quasi. Ma chi è? Qua manca arriva. Franco di solito. Franco. E anche qua. Fra, attrinzati perché non ti ascoltano neanche a Sassari. Sì, io già lo ascolto. Ciao Franco. Sì, confermo comunque, il segnale è bassissimo, è Santiago 6, qualcosa del genere. Anche la radio è bassa, oh, Franco. Ho cercato poc'anzi, ma con Claudio stavo parlando, ma non ho sentito a Franco, ma adesso sì, sì, mi fa piacere ascoltarti. Riprendi Franco, vai. C'è Franco di Sassari anche, poi c'è Brefessa, Gianni è appena andato via, c'è anche Tino. Avanti Franco di sotto. Ehi, chiappa, dai, con questa vedo quanto ascoltare. Ciao anche a Franco di Sassari e al Profetta, a Gianni. Sì, non l'ho sentito, me ne ascoltate. Cazzo, avanti Claudio. Allora sei tu. Ma prima io manco ti sentivo fare. Ma io con la terra con il fuoco di Sassari. Un'altra radio, per non stare lì a attaccare, a fare. Volevo provare quella là che ce l'ho aperta perché stavo cercando di sintonizzarla, anche lo smitter c'era toccato e l'ho sintonizzato con i vostri segnali, niente di più. Ok, e poi mi fai girare. A me rilancia. Sì, sì, Claudio, riprendi, fai girare adesso. Scusa, mi ero distratto, stavo guardando dalla finestra che mi stavano chiamando. Sì, vabbè, questo è il tuo segnale, 9.5, radio 5, con l'altra non ti sentivo. Proprio zero, fate il tottino, Santiago, sì, vabbè, tu sei di fronte a lui lì, sei più aperto. Anche con Giulio va qua, non arrivati. Va bene, avanti, Franco, riprendi. Sì, capa, saluto Franco, adesso ti ascolto, già ti ascoltavo male prima, figuriamoci con quell'altro apparato, con questo non riesco a tirarti fuori a malapena, comunque ti saluto nuovamente, avanti Gianni, Luprofetta. Saluto a Franco, adesso l'ultimo passaggio sono riuscito a copiarti, ben sentito, buonasera. Appena sopra il QRM, comunque riesco a sentirti. Ok, avanti Giulio. Ok, no, io già lo sento bene, a Franco, adesso già lo sento bene. No, poc'anzi probabilmente stavo dicendo col dipolo, Franco, perché avevi il segnale del dipolo quando avevo te luci, no? Avevi lo stesso segnale, avevi, confermi? Cappa, avevo il dipolo, sì. Però per non fare lì attaccare le antenne, l'antenna da qua e all'altra al baracchino, allora ho preferito mettere il dipolo, tanto di sicuro mi ascoltavate benissimo anche così. E niente, fino con te Giulio mi arrivavate 9.30 là. sicuramente ancora è da regolare lo switcher. Ok, avanti Tino. Vabbè, ma non fa testo, io sono attaccato a te, quindi quello poco importa. Franco, dove ce l'hai orientato il dipolo? Ma veramente ce l'ho orientato verso Platamona, ce l'ho orientato, ho sbagliato mettendolo, dai. Ecco perché vai qua non arrivi, tutta un'altra parte, dai. Cappa, infatti è così, infatti dovevo abbassare e girare, va bene, ma niente di particolare. A te Franco già ti ascolto benissimo, ti ascolto, invece a Gianni un po' meno, un po' più basso, avanti Gianni. Cappa, tu sei Santiago 4, e ti ho detto la radio lo stesso, radio 3-4 qua, come arrivi qui, comunque riesco a sentirti. Ok, dai, vieni avanti, Fra. Cazzo. Lipolo, magari quello ti va bene per fare DX. Puntata quella parte lì, verso ovest, dai, ti fai un po' di DX. Avanti, Claudio. Poi ci arrivi 9.30 a Tino, ce l'ha puntato sopra. Sì, no, qua proprio Santiago 2, 1, no, non ho visto, ma non riuscivo manco a sentirti, niente. Ok, mentre qui sei 9.5 abbondante. Solito tuo coso, dai, tuo segnale. Va bene. Avanti Giulio. Ok, là. Sì, beh, tra Franco c'è un varco buonissimo, dunque ci possiamo stringere la mano affacciandoci alla finestra, nonostante la distanza, per cui è così, dicasi anche per Tino, che problemi non ce ne sono, né con Franco né con me Tino ne ha di problemi, perché siamo quasi a risalutica la nostra antenna, anche se io ho sempre quel dipolo verticale fatto, adesso vediamo un po' in estate se originale, così almeno miglioriamo anche un pochino il segnale, ma tutto questo quando magari incomincia la propagazione, se è necessario, se no rimane così e va bene lo stesso. Va benissimo. Mi prendi Tino? Tino. Tino mi sa che ha fatto un attimo di bianco. Infatti poi è entrato, ha detto qualcosa, ma non l'ho copiato neanche io. Mi sembra aver sentito una bassa. Evidentemente è una bassa frequenza che ha, dunque deve rispondere. Va bene, facciamo girare, già riprenderà senz'altro dopo, perché Tino già non se ne basta per salutare. Vabbè, avanti, l'ombra è fetta. Eia. Io lo ricevo un po' così, vabbè, io sono proprio nascosto, sono proprio nella parte bassa, quindi mi arriva così per quello, però dalla parte di Porto Torres, lì la Sinara, sono tutto aperto, invece dall'altra sono tutto chiuso, e quindi sicuramente per quel motivo lì. Va bene, Tino è sparito, ok, avanti Cla. No, è al telefono Tino, dai, è al telefono. Va bene, mi arrivi a là come stanno i rivolti, ho fatto a mia moglie, a là come sta buzia, una migliora, ho scoperto il bilancetto, tocca chiudermi la porta, ma tanto fra un po' stacco e vado a portare il cane. Va bene, arrivate tutti bene, non c'è problema, importante sentirci voi. Si abbiglia in gomma le vostre mani, grappa grappa. Allora io sto andando col 430, non c'è nessuna differenza perché i microfoni sono uguali, ma la ricezione è una cosa allucinante. Sì Giulio, l'accordatore di linea c'è nel 430, mentre il 440 ce l'ha incorporato, cosa che io ce l'ho sempre disattivato, perché dal canale 1 al canale 80 c'ho 0 stazionati, quindi non serve niente tenere il pulsante inserito, sappilo. Disinseriscilo se non hai stazionari e se non ti serve disinseriscilo sia dove c'è attitudine sia dove c'è auto, sempre in fuori, io ce l'ho sempre disinserito e c'ho l'accordatore di linea del 430, la T230, capito? C'ho tutta la linea, anche il 430, la linea del 440, però la ricezione che ha questa radio è completamente superiore al 100% al 440, non c'è niente da fare, molto più compatta, molto più, e con tutto che di colonnina esterna ne ho una solo sul 440, ma questa con l'autoparlante suo è fenomenale, veramente. Molto più meccanica, ha un filtro solo che il NAR che stringe e allarga, NAR White, infatti stringe e allarga e basta, però come radio 430, anche in banda laterale, questo non lo dico solo io ma lo dicono tutti quelli che usano le radio Kenwood, è la numero uno che ha fatto la Kenwood di quelle analogiche vintage 4.30, venuto alla 4.40, e poi sappi Giulio che io nel 430 non ho mai fatto una riparazione ai livelli del 4.40, mai cambiato un condensatore, ed è sempre il Turada, adesso l'ho acceso, ho commutato per farla un po' scaldare, mai cambiato niente, l'unica cosa che Fabrizio mi ha cambiato è il display, perché c'erano bruciati gli ultimi due decimali, non mi piaceva tenerla così, ho ordinato il display dall'estero, mi pare dagli Stati Uniti, e me l'ha cambiato, basta. Altre riparazioni tipo il 440 non ne ho mai fatto io, mai fatto. Sì, sì, ma certo, meglio così. Oh, ma questo, ripeto, è stato riparato praticamente due volte. Una volta che l'avevi fatto revisionare tu, questa volta che l'ho fatto revisionare io, basta, niente di più. E se consideri che è una radio che avrà 25 anni di vita come minimo, per cui mi sembra che è durato abbastanza, sta durando ancora, e suppongo che duri ancora per un bel po' di tempo, visto e considerato il lavoro che mi ha fatto Fabrizio, poi in maniera straordinaria, per cui mi auguro perlomeno che vada avanti, così se ho pazienza vuol dire lo metteremo da parte e ripiegheremo su un altro baracchino, su un baracchino anziché su una radio, tutto lì. Certo, no, ma io non ricordo, da contattare l'antenna, non è che lo tengo inserito, ci mancherebbe altro, solamente che periodicamente lo controllo, sa mai l'antenna che può andare in avaria e periodicamente io lo controllo, per cui va bene così. Anche perché c'è un'altra reversa che anche senza bisogno di toccare quello, i tasti dell'accordatore automatico, c'è la reversa che ti segna le stazionali se ci sono o meno, per cui anche con quella va bene lo stesso, ogni tanto va a posto, poi la rimetto al centro, eccetera. Per la LC lo stesso, vedo se non supera il tratto rosso di molto, allora vuol dire che la radio va bene, che non è in saturazione, è tutto lì, no? Lo conosco molto bene adesso qua, l'ho studiato, dopo tutto ce l'ho 5 anni già, mi ha riscritto più o meno, bene o male, il tempo passa, non ce ne accorgiamo, ma il tempo passa. Meglio esco da casa. Alla grande. Giulio, meglio mi senti da casa? Perfettamente, Walter, perfettamente il presente, questo bellissimo. Sono quei 20 a Sorso. Come mai? Come sempre. Sì. C'è uno sul 23, c'è Bacchisio, uno deve essere, mi arriva più forte di te Giulio, deve essere ai punti. No, è alla veloce. Abita alla veloce, ma all'esterno praticamente, se tu ti affacci vedi dove abita lui, zona via Magellano, quella zona lì, dove c'è il treno, là insomma, tutte parole lì, a 100 metri dal treno. No, stai confondendo Giulio. Come no, ero lì vicino lì, prima della rotonda, diciamo, là, prima del semaforo, scendendo dalla veloce verso il treno, prima del semaforo, lì, è l'ultima strada, lì è una via lì, abita lui, dunque, in linea d'aria cosa sono dal treno? Pochissimo. Sì, quello è Bacchisio. Sto parlando di Bacchisio, perché chi ha detto? Non ho detto Bacchisio. No, c'è Torre Squadra, arriva più forte di Gio Maria qua a Torre con quell'antenna che c'è autocostruita, arriva quasi 9.30, quindi mi immagino come arriva a Walter. Neanche, sta parlando di Marino. Ah, è Marino attaccato a te, Walter. Arriva in ottava. Marino è lì, Walter, ce l'hai di fianco. Ottava, dai, dietro, come si chiama quel locale che c'è di ottava? Dietro lì. Marini. Dietro lì, allora. È lì dietro, sì, mi arriva 9.30, mi arriva, il Marino. E altrettanto io arrivo a lui, nonostante l'antenna che ho, che abbiamo l'antenna, la mia, è un diporto, basta. Ho capito. Vabbè. Certo, Marino sì. No, io non lo sento, di parte non lo sento, la verità. Anche perché siamo troppo distanti, dal 23 al 10. E lui parla molto spesso lì con Bacchisio, capisci? Siccome sono amici intimi con Bacchisio e allora si sentono lì. Anche in PMR si sentono molto spesso. Ma alle volte Marino, diciamo che passa anche qua, su questo canale. Non molto spesso, però di tanto in tanto gli già si fa sentire. Le prendi, va, per fai girare tu, vai. Sì, vabbè, io sono sempre sul 20 intanto. Vabbè. Avanti, Claudio. Sul 20, però vado dappertutto, non me ne frega un cavolo. Adesso non c'è nessuno nel 20. Ma dopo entro lì. Ma nessuno ha detto che dovete stare sul 20, io sono qua sempre sul 10 e basta, non si può parlare tranquillamente tutti assieme, ognuno per i cacchi suoi, non è quello il problema. 9.30 sei qua a volte, vabbè, stai usando la potenza alta della radio. Già ti ho già seguito in altre occasioni. E fra, se non ti arrivi 9.20 in volte da lì punti, che vuoi ti arrivi a io. Ehi capo, noi arriva bene, c'è una bella radio anche stasera. Proprio doc. No, c'è un setup economico, proprio base, un IC7007 della ICOMO, un lineare della OM Power da 4,5 kW e una mantova 1, LSM20. Di più, fammi una birra. E 4,5 kW. Ehi, quello piccolo, se no c'è anche quello da 10. No, c'è l'OM Power, OM, si chiama OM 4000 automatico. Vabbè, già sei vicino alla cabina lì. Ce l'ho vicino. La cabina ce l'hai vicino, sì. Ma se la volta me l'ha fatta guadagnare uno che costava 17.000 euro di lineare. Ah, diglielo, fate. Costa di meno, costa 10 in meno. Sono liscio con 10 watt, 10-20 watt. Cazzo, così lo perdo, Con la corrente è stato tutto. Più di una volta. Quanto ti arriva così fra Walter liscio? Walter liscio mi arriva a Santiago 1, ha lo stesso segnale di Franco. Prova a vedere il Walter. 1, 2, 3, 4, 5. 9 mi arriva. Quante metri ti arrivata? Sì. Walter. Beh raga, io vi saluto, dai, un abbraccio a tutti perché è tardi. Ci sentiamo, chiedevo al sistema americano, non vengo l'ora da me in campagna, davanti un riboreggio sul gare, mi sono rotto le palle. Ciao Tino, Franco di Sorso, Franco di Sassari, Gianni Lo Profeta, Giulio, Walter e chiunque in ascolto sui 3.10. Un abbraccio a tutti, a domani, ciao, passo e chiudo, vai Tino. Ehi, ciao, ciao, sistema il cane, mangialo, o devi dargli a mangiare. Non lo può portare a caccare. Saluto da Filippo. Ciao T, ciao, purtroppo il condominio è così qua, non vedo andarmene che te lo compro più per non avere più queste rotture di scatole. Ciao, ciao a tutti. Partite ci sono qua stasera. E il Cagliari Fiorentina c'è Padrini. All'8:30. Allora, quella è da non perdere, c'è il Cagliari picchia la Fiorentina, sono contento perché ha bisogno di punti. E anche io perché il Cagliari bisogna più farlo. Il prossimo anno mi faccio l'abbonamento anche per scendere le partite che ci interessano. Il 2 aprile andiamo con Mariolino a vedere la partita, a Cagliari Juventus, guarda. 110 euro in distinti abbiamo pagato, una cagata. Adesso ve lo so trovo anche mio fratello l'abbonamento. No, l'abbonamento non lo faccio perché non è che puoi andare sempre, buffandici. Questa volta andiamo così, ce la guardiamo, ce l'abbiamo gli occhi, siccome lui è già andato anche a Torino a vederla, capito? A vedere Juventus Cagliari a Torino, e adesso andiamo a vederla qua, che mi costa di meno, me la mazza nelle varie. Vabbè. Dai, un saluto a tutti circolare, ok? Un abbraccio a tutti e buon proseguo di queste ore. Vai Giulio, fai girare tu. Ok, ciao qua. Grazie per la chiacchierata, a domani, vai. Sì, è ben certo, oggi, cioè, proprio, no, ieri stavo leggendo che ci sono, c'era lo stadio, aspetta dov'era, in Spagna mi sembra, c'era il biglietto da 75 euro, partiva fino a 600 euro, bobo, e dai che si usava il gabbo che spende 600 euro per vedere la partita in casa. Vabbè dai, le prendi fra, non per salutare a Claudio. Grazie Giulio, da sei insieme. Beh, qualche coglione ci ha messo una portante nei punti. Sta stai dicendo Giulio, ci sono biglietti da 3.000 euro, 6.000 euro, 9.000 quando sono le coppe. 600 euro ci va anche Claudio. Che bello, un attimo. Ciao Claudio, un abbraccio anche in famiglia, ciao. Avanti, Lo Profeta. Ehi, mi unisco io, anche io mi unisco a Claudio. Ragazzi, io vi lascio, grazie al QSO, mi ha fatto piacere, Un saluto a tutta la ruota, ci si sente alle prossime. Buona serata a tutti, buona cena e buon tutto, alla prossima, ciao, grazie. Anche io mi stacco un po' perché ho da seguire il telegiornale e fare altro, dopo rientro. Non c'è più nessuno, vedo l'oscilloscopio qua, c'era uno prima sul 5, era portante, ho visto, tutti gli altri canali sono liberi. A dopo. D'accordo, basta, a dopo, dai, salutoni. Ciao Gianni, alle prossime, salutoni anche a te, ci sentiamo prossimamente, dai. Avanti Franco, Franco di Sonso però, Ehi capo, dai, ciao Claudio, ciao anche a Gianni e a Walter, ci sentiamo le prossime. Capo, allora poi mi siete là per andare al taglio, no, non l'avevo altro. Avanti fra. Scusate, riprendo io, anche io mi devo allontanare, che tra riff e raff devo accendere fuoco e quant'altro, fuoco per scaldare, non per cucinare, non capite male, che io di queste cose non ne faccio. Se coincide più tardi, ok? Riprendi fra, ciao a tutti. Già non è cosa male, anche il fuoco per cucinare. Ciao, un abbraccio anche a te, alla prossima. Ciao Tino, comunque ciao a tutti. Franco, c'è gente che spende 150 milioni di euro per un quadro. Bisogna aprire un po' l'orizzonte ottico e cerebrale. Purtroppo noi siamo troppo piccoli per poter capire certe cose. Non le concepiremo mai, certo che non lo faresti, no? Però per i biglietti per andare a vedere le coppe da paura. A parte non solo il biglietto, poi c'è tutto il resto intorno, no? L'hotel, l'aereo, via dicendo. Vabbè, ciao a tutti, a dopo. Capo, quello sì, uno sportivo fa quello ed altro, che se lo può permettere, se poi uno non se lo può permettere si rimane a casa, o se lo guarda in TV, o se lo guarda, o non lo guarda niente, non lo guarda. Ok, dai, ciao a tutti, ciao anche a Tino. Avanti Giulio. Ok, ciao Walter, ciao Tino. Salutoni a tutti e due, alle prossime, dai. Sì, beh certo, quello è vero, quando uno ha i soldi li spende anche in quel modo lì. Vabbè, comunque, anche quell'economia che gira. Vabbè, avanti Franco, di Sassari. Bravo Giulio. Capa, saluto anche a Gianni, il profeta, che poc'anzi sono dimenticato di salutarlo, un abbraccio anche a lui. Vi saluto anch'io perché sono arrivate le pizze e le voglio mangiare calde, dai. Un abbraccio a tutti, circolare, complimenti ancora per questa ruota, stasera una bella ruota, grande. Però stiamo andando bene, dai. Un abbraccio ancora a tutti, riprendi Giulio. Ok, ciao fra, salutone, grazie per la chiacchierata, dai. Domani se coincide siamo qua. È un piacere. Sì, beh certo, Walter. Purtroppo è così, noi lo possiamo, pazienza, ci accontentiamo di quello che possiamo fare, però chi ce li ha i soldi è giusto anche che li spenda, così l'economia si muove, allo stesso tempo procura lavoro e dà lavoro a tutti e a tutti quelli che ne hanno necessità. Avanti Walter. Certo, a me fa piacere vedere la gente. Creano lavoro, creano movimento di denaro, fa sempre c'è quello della Juve, il più famoso, poi da te lo racconto di persona, sta prelevando la media di 1 milione di euro in contanti al mese per spese pazze. Va bene, a dopo. Ok, ciao Walter, a dopo, non so se mi trattengo molto, comunque eventualmente mi sente salutato, dai, siamo sempre qua la sera. Avanti Franco di Sorso. Capo, dai, saluto anche a Franco di Sassari, saluto e ce la ascoltiamo, buona pizza. Capo. Sì, chi c'ha i soldi lo può fare solo queste cose qua. Vabbè, è giusto, è vero anche che gira l'economia, però solo chi c'ha i soldi lo può fare. Chi c'ha i soldi come Walter, vero Giulio? Walter, grazie a Dio, già sta bene, non sta sicuramente a quei ripresi, però già si difende abbastanza bene, per cui, e sono contento per lui, figurati, ci mancherebbe altro. Io sono contento quando un amico è una persona benestante, uno che ha delle possibilità, così almeno se un domani ho necessità posso anche rivolgermi a lui. No, no, no, no. avuto bisogno di nessuno, grazie a Dio, fino a luglio, ma c'è la vita, non si può mai dire, sai com'è. Dunque dobbiamo stare contenti che gli amici possano avere possibilità e chance, in modo da poter eventualmente domani chiedere anche un aiutino, e chi lo sa, nella vita tutto è possibile, per carità. Vabbè dai, fate, adesso se ne sei andato veramente o ti conosco e se ne è andato qua, dai, riprendi fra, mi sembra che siamo rimasti noi due soli. Capo, io sono rientrato tutto tardi. Vabbè. La sera è l'orario più che vado di uscire. E niente, poi si è visto anche che c'hai milioni di tipo giocatori, che c'hai milioni, e poi di superarlo quello più povero, diventare ricco quello più povero, perché quello che ce l'ha veramente, che nasce quasi ricco, quello lì muore subito, perché non sa neanche spendere i soldi. Certo, quello sì, purtroppo è così. Queste differenze così enormi che sono, esistono, però ripeto, io devo essere sincero, non ho gelosia per nessuno, ci mancherebbe altro, perché se loro sono in grado di avere soldi così abbastanza, diciamo così, tanti, beh, anche loro io gli auguro tutto bene in questo mondo, a chiunque, ci mancherebbe altro. Pensandoci in maniera obiettiva potrebbe dare fastidio, pensando che nel mondo ci sono tante persone che muoiono di fame, per dire, no? Che non riescono a sopravvivere più di quei 3, 4, 5 anni, per riferirsi ai bambini, tipo quelli del Biafra, tanto per fare un piccolo accenno. Non so, da fastidio, però da quando il mondo è stato sempre così e lo sarà sempre. Intanto io né con le mie lamentele e tantomeno con le mie obiezioni posso cambiare il mondo. Ci sarà qualcuno in grado che possa farlo, questo non lo so, però ripeto, io gelosie non ne ho assolutamente. Beh, anche loro, io ripeto, buon divertimento, buona salute a tutti, anche se capisco che, come stava dicendo Franco, come stava dicendo Marco, invocato, c'è gente che magari spende 150 milioni per comprare un quadro, quando c'è gente che non riesce nemmeno a pagarsi l'affitto di casa. E così ho fatto, avanti di prima. Capo, sì, ma è vero. Lui, direi, io non mi vorrei, mi va bene come sono, con lo stipendio ogni mese, e adesso per dire con la pensione, perché avere tanti soldi c'è anche un rischio, cioè invece in questa maniera non è che ti cagano e ti lasciano stare. Evidentemente gente che ha avuto più fortuna, gente che magari è stata anche più brava nel riuscire a realizzare certe fortune, non lo so, io devo essere sincero, la mia parte me la sono fatta, per cui va bene così, non pretendo più di tanto, anche perché intanto sarebbe inutile pretendere, non si potrebbe arrivare, ma devo dire, la soddisfazione migliore, quella che ho proprio io, non è solo il fatto della casa o dell'immobile che ho, eccetera, no? E una più una, e più un magazzino, eccetera, più un porticino, eccetera. La soddisfazione sono stata è quella di essere riuscito a far laureare mia figlia tranquillamente, in modo che lei possa, grazie a Dio, riprendersi con le tutte possibilità alla grande, senza bisogno di avere bisogno di me in un futuro. Ecco questo che mi interessa, quella per me è la mia grande fortuna, la fortuna, la soddisfazione più grande. Io credo. Quello sì, quelle sono cose belle, diciamo che io guarda in tutto coso, mi è bastato tirare avanti, riuscire a tirare avanti fino alla fine diciamo della pensione e di essere arrivato qua, poi speriamo di arrivare anche più lontano. Certo, figurati, io te lo auguro di cuore, ci mancherebbe altro. Thank you. rispetto, no, come tanta gente che vive l'invidia, no, non ho mai avuto io invidia per nessuno. Io ho sempre pensato che ognuno deve arrangiarsi da solo e deve costruirsi una vita nella maniera migliore possibile, sempre facendosi da sé. L'aiuto degli altri non serve, basta che uno si metta di buona volontà, salute naturalmente ci vuole, questo è ovvio, ci mancherebbe, e lavoro. Quando uno lavora, che ha salute e lavora, tutto va bene. Tanto se sei riccone o se sei povero, sempre un piatto di pasta asciutta ti basta a pranzo o a cena. Dico, un piatto di pasta asciutta per dire altre cose, no? Come dicevano una volta, dicevano una magliata è una eccetera eccetera, e così la penso anche lui, per cui va bene così. Interessante che non manca mai niente, che non soffre, insomma, ecco. Ecco, beh, quello già è vero. Sì, quindi vabbè, chi c'ha i soldi veramente vanno a fare dei pranzi, delle cene, e poi ci buttano più della metà della roba, e quello fa schifo, quella gente che fa schifo veramente, perché uno che va in un ristorante mangia a quattro ganasce e poi si butta più della metà di quello che si mangia, quello viene a fare schifo, quello non mi piace per niente, è sempre uno schiaffo alla povertà quello. Certo, c'è gente che spende decine di milioni per farti una festa di un compleanno, e tu quante volte l'abbiamo sentito anche qui in Sardegna, la cosa smerata, gente che apre decine e decine di bottiglie, magari bottiglie che costano 200-300 euro a bottiglia, e te ne apro una marea, magari ne consumano un bicchiere, una bottiglia, poi la buttano, la mettono da parte, ne aprono un'altra, a costo di 200, 300, 500 euro la bottiglia, e per quello i grandi locali ci fanno loro per quel motivo lì, però tutto è subordinato, i ricchi con i ricchi e i poveri con i poveri, loro direbbero. E il discorso è questo, se tu fai le cose in grande, vengono le persone che hanno grandi possibilità, se fai le cose piccole vengono le persone che hanno le poche possibilità, e così si va avanti nel mondo, come è sempre stato. Io te l'appoggio. Che cosa vuoi appoggiare tu? Ce l'hai muscio? Lo so, amore mio. Non mi devo ricordare che capita ogni tanto l'appoggio, poi la sento portarlo, dice no, meglio che entrare di nuovo dentro, nel guscio. Cos'è che tu mi devi dire a me, perché stai uscendo così male stasera, non ho capito, tu non ti capisci neanche come parli. Ah, come ieri notte, no, che me l'ha pigliato per il culo, non è possibile. Sto usando le... Insalerta. Aspetta un attimo, cambio il microfono, due minuti. Poi è possibile che io ti prenda per il culo, perché io non ci arrivo da qua. Avanti, Giulio. Appunto. No, io non ti meravigliare, ormai io mi sono abituato a sentire Antonello. Un giorno lo sento bene, 10 volte lo sento male. Non è che ieri, ad esempio, avevo un microfono che faceva appena, peggio di questo di oggi, anzi è lo stesso microfono, a dire la verità. E cosa ha fatto? Per sistemarlo, poi alla fine, dopo tante prove, gli ha buttato un bicchierino di mirto, gli ha buttato sul microfono e l'ha sistemato. E dunque, ogni tanto, ormai non ci faccio più caso, non è un problema. Il problema è questo, casomai, per chi non vuole tenere in considerazione, che lui è un tecnico appunto del settore, e veramente riesce a uscire bene. Bene, Antonello. Che disgraziati che siete, cazzo, mi avete preso per alcolizzato, devo metterci il mirto nel microfono. Guarda adesso un po'. Sì, dai, adesso mi sembra che abbia migliorato un pochettino, abbia migliorato. No, Giulio, non è così, non è il fatto del mirto, cosa così che beve lui. Lui la sera esce e va lì alla stazione, va. E c'è un amico che c'è la terza gamba, e poi quando arriva tutto storto. Cazzo tua. Maniaco, aspetta. Guarda un po' adesso, ha detto qualcosa. No, già va bene, va benissimo adesso, ti ascolto più chiaro di poco fa, ti ascolto, andate giù. Ok, no, il problema è sempre quello, Antonetti, se tu la potenza la passi, vedrai che la radio si rispetta, se poi invece fai l'esagerato con Marchighieri e Aumenti, allora vedi sempre più complesso, invece provo a abbassare la potenza e vedrai che nessuno dice niente. Sto scherzando naturalmente all'inizio, ma se ne prendi. Sì, già lo so, ma siccome ieri me l'ha preso per il culo Gianni e Claudio, capito? Mi hanno fatto cambiare di tutto di più, hai capito? Fino a un certo punto, allora fa il culo, Giulio, pigliate per il culo, tutti e due non stanno a svegliare con voi, Giulio. Adesso va meglio comunque, là. Cioè, un problema ci dovrebbe essere per forza, perché quando parlo mi sono accorto che lo smitter tende a scendere leggermente di cosa, di luminosità, quindi adesso domani mattina me ne smonto tutto, me ne smonto. E voglio vedere qual è il problema. Evidentemente c'è qualche cosa di alimentatore, magari io non me ne sono accorto, siccome ha dormito mia nipote qua e cose del genere, e ha dovuto smuovere tutto, capito? Per fare spazio, evidentemente ha toccato qualcosa ed è sgraziato, perché prima uscivo talmente forte che prima dovevo diminuire, invece adesso facevo schifo, quindi aspetta un attimo. Vabbè, non si vede una fanculo, c'ho l'elevatore in terra, vabbè, non mai lo sguardo per... Adesso va meglio, sì. Sì, adesso va molto meglio, Antonio, adesso almeno c'è là, capisce bene, per cui appunto sono stato dicendo. Lo so, vabbè, il bambino può vedere la famiglia, vai sopra, gira i pomeriggi, eccetera, e ovvio poi quello dice, Dio già lo mette a posto. Cosa ne sa il bambino? Avanti fra, ancora qualche passaggino e poi si va a chiamare. No, io invece adesso vi lascio perché mi ha chiamato. Ci sentiamo tanto prossimo, grazie della piccola chiacchierata. Magari ci sentiamo domani se coincide, sempre che sono in questo frattempo dell'orario che sia qua. Ok, ciao Giulio e ciao anche a Alessio, ci sentiamo, riprendi Giulio e fai girare. Buonanotte. Ciao fa, buonanotte, mi senti? Sì, infatti stavo pensando, non avevo parlato anche con Claudio stasera, ma non ho sentito Franco, di solito ho pensato, però l'ho sentito qualche giorno fa, ma adesso con Claudio, e dunque adesso mi ha fatto piacere di ascoltare. Là, comunque, alle prossime, grazie per la chiacchierata, ciao. Sì, a te anche io chiudo, sono già le 8:20, per cui è già ora di cena, finalmente. Magari mi sta anche aspettando mia moglie, non mi ha ancora chiamato, ma sono sicuro che sta aspettando. Ci sentiamo, ciao Tonè, grazie anche a te per la chiacchierata, dai. Stasera più volte sei entrato, più volte ti sei allontanato, ma va bene lo stesso, il problema non ce ne so. Dimmi piuttosto, ci stai entrando sul Civitonco, Antonè? Sì, aspetta, sì, sto entrando, ascolta, ti volevo dire, ieri notte sono entrato dopo che ho mollato la 27, sul canale 7 in spagnolo, e ci sono due ragazzi italiani, ci sono, che parlano tranquillamente con noi, hai capito? Cioè, sì, parlano con noi, io ho parlato fino a quasi mezzanotte ieri notte, figurati tu, eravamo io e mia nipote, stavamo parlando con lui, mi ha detto c'è... quando vuoi entrare c'è Alessio, dice non ho problemi, mi ha detto, dice se siete gli unici, dice che si può parlare, quindi fra ricordatelo, se mettiti direttamente i canali spagnoli su canale 7, hai capito? Fai il break e normalmente parli con un sacco di gente e ti diverti. Sì, Giulio, ti volevo dire, sì, ma purtroppo a volte la sera io esco, capito, e non mi trovo in questo orario che voi modulate nel frattempo. Magari a volte arrivo prima, come stasera, a volte arrivo dopo, dopo le 8, e non c'è più nessuno a cui. Ok, dai, ci sentiamo, ciao ciao. Sì, Antonio, ci provo lì a vedere com'è la situazione. Ok, ciao, buonanotte a tutti e due. Ciao, ci sentiamo, buonanotte a te. Però avete di andare lì su Cimital, che parli praticamente con questi spagnoli, e non c'è nessun problema. Ci accogliono bene, ci vogliono bene, quindi non c'è proprio più da mezzanotte ieri sera, figurati tu. Mi sono divertito, la verità, mi sono veramente divertito. C'era una bella ruota, un'Europa di 6-7 persone, quindi figura di tu. Non c'è avuto altre belle diarie, quindi anche tu, Giulio, mettiti anche tu, i canali spagnoli, vai sul set e ti fai la tormenta chiacchierata. Va bene, ciao di nuovo, fra le turche. D'accordo, Antonè, ci sentiamo le prossime, dai. Ciao, salutami a Giuseppe, se per caso lo sente sul canale 14 del Cibitonk, sulla versione canalizzata, e adesso sono un po' che non lo sento più. Vabbè, ci sentiamo, ciao Alessio, ascolto finale, poi chiudo, va, ciao. Ok, no, ma acceso adesso a me, perché c'ho il telefonino all'altro, quello che ho comprato, che ho messo Cibital, che c'è Giuseppe, quindi dovrebbe essere l'ascolto. Andate, vi saluto a tutti e due, non c'è problema, statemi bene e buonanotte domani. Ok, ciao, ciao.